dimmi. E che si dice? E che si dice che è tutto muto qua, non c'è nessuno. Vabbè, fine settimana, cosa vuol dire? Non so. Mi c'è uno che ha detto se lo sentiamo, basso basso, avanti, chi è? Ci sei? Però ti ascoltiamo basso basso, io ti ascolto. Qua, come l'ascolti tu? Non ho capito più chi è. Circa 20 anni che non trasmette, ha detto che dice che è Charlie. E dice sta mettendo a posto l'apparecchiatura qua. Non ho capito. Charlie è una voce un po' conosciuta. Infatti anche a me mi sembra di conoscerla questo qui, adesso che ha parlato. Noi trasmettiamo, c'è la voce di Antonio Globo e tu, fuori campo siamo, vabbè. Comunque, conosciamo tutti quelli che hai nominato. Io sono Carlo Sparviero, datato 1973. Non so, non mi ricordo. Si modulavano tanta gente allora, però non mi ricordo io di questo chat. Come? Non capite. A te che tocca lo Sparviero ti dice qualcosa. Ne sono sempre io. Forse sono l'unico supposto che è rimasto. Sempre stessa modulazione, stessa radio, non ha cambiato mai niente. No, io no. Neanche la fisionomia. Avanti, Natalia. Incappa. Ma a me mi sembrava un'altra persona, ma non vorrei sbagliarmi. Comunque, 1976, l'ho conosciuta quella radio in Bella Fiorella. Capo, io sono entrato un po' prima. Va bene, grazie, buon proseguo, alle prossime. Ciao, ciao, alle prossime, buona serata. Signore, per te qua è Santiago Nova. Va bene, quindi non si è sentito nessuno. E io sono arrivato anche un po' tardi, poi mi sono sdraiato, sennò... Uia. Ehi, anche io mi sono sdraiato dopo pranzo e poco fa me ne sono alzato. Ho preso il caffè e sono entrato. Che potrebbe essere? Altre persone. Sì, ma qualche giorno facendo scherzi allora. Boh. Cos'è? Cosa è Giuseppe? Ecco che è successo. Ok. Poi ti chiamo, vediamo un po' se c'è la macchina domani mattina. Ci faccio un salto. No, non lo sto facendo. L'unica cosa che ho scoperto è che non entra in funzione la ventola, quindi quando scalda la radio va in protezione. E l'unico problema che c'è è quello. L'ho scoperto sino a tardi e notte. L'ho fatta scaldare. Sto usando quella. Però no, altri problemi non ne ha. L'unico problema è quello, quando scalda non ti fa andare in trasmissione perché il finale è troppo caldo, quindi devi aspettare che raffreddi. Capito? Infatti lo sto usando a bassa potenza, ora un po'. Però adesso dopo la proviamo cosa c'è la ventola, se c'è qualche filo staccato, qualcosa, non lo so. Ma chi so è? Questa era quando scaldava che te lo faceva quel difetto. Deve essere proprio la ventola. Sì, Natalia. Il cuore viene un po' visto. Capito? E quindi no, non fa andare la trasmissione, si blocca. Si blocca. No, non capisco perché la ventola non vada. Andava. Se non ha preso umidità qualcosa, non so. Adesso sto cercando di svegliarmi un po'. Ma non usare, no, a chi di baccargli di vinali e andare in protezione. Tratta l'altro, così su labbri e così almeno ne approfitti che gli dai una bella pulizia dentro. Quanto è forte Natalino, porca miseria. E chi è questo? Chi è? Ciao Valì, adesso già mi senti già? Figurati. E anche in macchina ce l'ho, mi ha messo la PLC 800, quella che usavo come antennino in macchina. Iaia. Dove si diretta? A Sorso? Sì, sono appena uscito dal ghiro, sono... Sì, devo andare a Sorso. Cazzo, adesso ti sento benissimo. Sì, Antonio. Io vorrei, ciao, buonasera, buon ascoltato. Non mi sono fatto adesso, mi sono seduto qua un attimo. Sto vento di merda che non vuole... Non vuole smettere, ogni pomeriggio c'è sto vento freddo, porca miseria. L'hai sfruttata troppo volta la sopporta la potenza? No, questo è di Giuseppe Radio, ho capito. Giuseppe Radio questa, anziché tirare sul micchiglietto, non si è accorto, ha tirato sul power e continuava a modulare, quando usciva male, è perché c'era la potenza manetta. Capito? Poi è andato a Valerio, se ne è accorto, l'ha messo a posto, stava facendo benissimo. Però il danno l'ha già fatto, praticamente è partito sicuramente al termostato, qualche resistenza che dà il consenso al termostato della ventola, e quindi automaticamente quando la radio scalda si blocca, non ti fa andare in trasmissione. Ehi, è come hai detto tu, non ci sono pezzi di ricambio, purtroppo. Io non so dove trovarli, se il termostato non lo so, se la resistenza già si trova. Cosa c'è su quel circuitino che consente la ventola di entrare in funzione, capito? Se non la trovo, se non trovo per molto, dopo via gliela metterò diretta, cosa vuoi dire? Ehi, buonasera a tutti, dai, non ho salutato, sono bello imbacucato che c'è sempre freddo a casa comunque, perché è molto coperto, dai. Ci siamo in basso, come dire, il sole non arriva tanto qua. Meno male è sempre fresca la casa. In estate la più fresca sarebbe la mia stanza, perché il sole non batte mai. Tutto ciò che c'è verso la strada non è quasi mai investita dal sole. Deve battere il sole, se non così. Perché vai, vai, te lo mando avanti, avanti, vai. Io ciao Marco, buonasera, ben risvegliato. Cosa devo dire? Ma veramente è freddo? No, da me non, vabbè, da noi è diverso, il ghetto è diverso, poi sono una cosa per la mia, ieri c'erano 20 gradi, oggi è diminuito appena appena, diciamo, no, ieri, sì, ma ieri oggi è diminuito a 10 gradi. Io avrei avuto, non so dove trovare un termometro preciso per casa, per lasciarlo a casa. Avrei voluto un termometro però preciso, che sia lancetta, cioè che sia mercurio o quello che è, o che sia elettronico, però di quelli elettronici mi fido anche poco, boh. Perella vendeva roba di questo tipo professionale, non so se ne venda più, però una volta li rivedevo quelle cose lì. Amazon. Sì, ma comprare da Amazon è come comprare anche in Cina, mi. Vabbè, tu prendi qualcosa che hanno loro, no? Posso provare, magari qualcosa che fosse anche certificato proprio, capito? Prova, io ne ho comprato due, anzi tre ne ho comprato, che uno l'avevo regalato a Franco, poi ne ho due a casa, una l'altra e l'altra, e sono arrivati dalla Germania questi. Eia, un attimino che mi soffio il naso. Io ne avevo uno e c'aveva la sonda pure, di quelli che servono per misurare i condizionatori d'aria e tutto, per le macchine. Cavolo, puniva la sonda pure e mi diceva la temperatura di vola. Sono abbastanza precisi questi strumenti, Io l'ho confrontati tutti e due, sono diversi, sono della stessa marca, però sono diversi come funzioni tutti. L'ho confrontati, ho messo il sensore tutti e due vicini e mi danno la stessa temperatura, figurati. E infatti, io ce l'avevo, non mi ricordo dove l'avevo comprato, ragazzi. Me lo devo buscare uno per qua, di quelli che hanno la sonda, così metto la sonda fuori e mi dice la temperatura di fuori, capito? E vabbè, la sonda, adesso è un trasmettitore che tu metti fuori e poi lui comunica. E così ce l'avevo io. Una sonda, un pezzo di filo era, che lo mettevi fuori, oppure se dovevi misurare l'aria condizionata della macchina lo mettevi nella bocchetta questo filo e ti diceva la temperatura. bene, uno, l'altro già va bene. Allora io l'ho preso su Amazon, io prendo tutto su Amazon, boh. Sì, ma vabbè, c'è qualcosa ogni tanto, secondo che cosa si compra, arriva dalla Cina, due volte mi sono arrivato dalla Cina, porca mia, uno ci ha impiegato 20 giorni, no, 22 giorni ci ha impiegato dalla Cina, direttamente dalla Cina, e poi un altro 15 giorni, beh, si sa che hanno, che hanno migliorato un po', ma dalla Cina non conviene, è troppo tempo. E ci mettono un bel tempo, sì. Questa rata pignola sempre le cose tecnologiche sta cercando, via. Sì, guarda, proverò a guardare da Amazon se trovo di quelle stazioncine che hanno, che puoi mettere in casa, che abbiano il sensore esterno, il sensore esterno wifi o quello che è, anche col filo mi va bene, capito, che hanno quella sonda col filettino. Tanto per avere l'idea della quale la differenza interna alla mia camera ed esterna alla camera, capito? Ok, ogni tanto anche da Lidl hanno roba del genere, piccole stazioncine meteo richiamano, e c'ha termometro con sonda, è roba tedesca comunque quella, è roba tedesca, Lidl porta tutta roba tedesca, magari anche passabile, dai. Bisogna vedere se ce l'hanno, bisogna andare a fare un giro e vedere se ce l'hanno, invece di prenderla da Amazon. Seia. Beh, ogni tanto gli arrivano, non sempre però, bisogna cercare, guardare il catalogo, come mettono l'offerta, si può provare, dai. Ok, benissimo, vai Claudio. Sì, intanto voi sto controllando, sto radio, io sono qua. Ma te le immagini come la sento a questo Valerio in macchina? Sì, Valerio in macchina è forte. Oh Valerio, dove ti trovi di zona? Sto arrivando a Porto Torre, insomma no, a Porto Torre ancora no, sto arrivando, ci vogliono ancora circa 2 chilometri per arrivare alla rotatoria di Sentino, va, Sentino, Porto Torre, capito? Ha voglia, arriva da 5 a 8 oscillante, 5, 6, 7, 8, poi 8, 7, 6, 5, e quindi va più che bene, dai. Beh, bisogna considerare che sto usando lineare, io uso sempre lineare, potenza minima tra circa 50 watt, 40 e 50 watt, adesso lo stacco, vediamo un po' cosa cambia. Dovresti staccarlo da fermo però, perché il movimento non... Il movimento in che senso? Perfetto. In che senso il movimento? Ah, se fermo, fermo. Ecco, vedi, adesso sei Santiago 5, prima eri 7, un attimo prima. Ah, no, sì, meglio da fermo, comunque buono, dai, due Santiago in più in macchina sono notevoli, è come avere una 5 ottavi sulla macchina, come avere proprio l'antenna di casa sulla macchina. Io ce l'ho già la 5 ottavi sulla macchina, adesso ci metto un linearone, il 550 e crepa tutto. Allora, informazione per gli utenti, non esistono antenne 5 ottavi da macchina, sono tutte un quarto d'onda. Ascolta, la mia è una 5 ottavi, perché lo diceva, anzi, PLC 800, cercalo, anzi lui è qui. Sì, sì, l'ho avuta ed è un quarto d'onda. Allora, a parte le chiacchiere da bar, non esistono antenne 5 ottavi da macchina, sono balle che dice la LEM, che dice la Sigma o quello che è, sono tutte un quarto d'onda. Se voi aprite la bobina, no? E la svolgete, controllate la lunghezza da stilo, tra stilo e bobina, fate la somma e avrete una sorpresa piacevole. Cioè, l'ho visto anche con la mia, la bobina è poca, se tu la vai a svolgere, no, la metti dritta, no, fai la somma tra lunghezza stilo e lunghezza bobina, scoprirai che è un quarto d'onda, sono tutte un quarto d'onda, anche la turbo 5000 che la LEM spaccia per 5 ottavi furbescamente, anche se è un quarto d'onda, sono tutte un quarto d'onda, basta lì, mica l'ho avuta io la PLC 800, l'ho avuta 30 anni fa, so benissimo già da allora che era un quarto d'onda. Ecco, un attimo il back, ma ricorda allora cosa serve, a nulla? No, il corto serve per non far arrivare elettricità statica al baracchino. Avanti break. Ciao Marco, Fortunato qua da Sassari. Vi ho ascoltato poco fa, non potevo entrare perché problemi di batteria, adesso ho cambiato. Niente, sto entrando per salutarvi. Marco, storia di controllo, anche Claudio, poi ho sentito sì, Valerio. Ok, riprendi. Deia. Ciao Fortunato, ben entrato, dai. Compagnia di Valerio, in bara mobile, Sidatalino, bara fissa, Claudio che sta facendo roba, ogni tanto appare, dai. Vai Natalino per Fortunato. Ciao Fortunato, ben sentito, buonasera e ben entrato. Cappa, riprendo io, ti mando insomma per i saluti e niente, dai, fate chiudo da parte mia. Se sentite Claudio, salutatelo da parte mia. Ti prendi Marco? Ciao Fortunato, sono qua che sto sistemando una radio, ciao, un abbraccio. Ehi a Claudio, se ti serve una ventola ti do quella dell'Australisi, forse dovrebbe andare bene. Ehi, dammi il satirofono di Ribelli, intanto non hai. Passato. Tu solo lo usi solo per asciugarti il piede del petto, perché in testa non ne hai, dammi chissà che non ti sirvi. Oh dai, scusate che devo sganciare, dai, ciao ciao. Ciao, ciao, un abbraccio, vai te Marco. Eia, ciao Fortunato, dai. Eia. Eia Natalino, il corto, cioè il cortocircuito, c'è cioè sia sulle un quarto d'onda, sulle mezz'onda, sulle 5 ottavi, sulle tre quarti d'onda, cioè serve eliminare l'elettricità statica che può rovinare l'apparecchio tutto lì. Il corto con la lunghezza d'onda non c'entra nulla. Ascolta, io li tolgo il corto, è piena di stazionari la mia antenna, perché l'ho già provato. Li metto il corto e scendono le stazionari, come si spiega? Non lo so se tu levi esattamente il corto, però se un'antenna è costruita e progettata per lavorare in corto, deve lavorare in corto, è chiaro. E se no la stai manomettendo, è come che gli stai tagliando un pezzo di bobina. E infatti quindi non è un quarto d'onda, la PLC 800 è 5 ottavi. Ehi Natali, va. Guarda, io so che è un quarto d'onda, se tu vuoi convincermi che è una 5 ottavi non mi convinci. Se tu sei contento e preferisci credere che sia una 5 ottavi, io ti dico sì Natalia, è una 5 ottavi, tranquillo. Infatti la mia l'antenna. Se lo scimurbio fossi, quell'antenna va bella in macchina. E già ne sa qualcosa a Claudio. E allora anche la mia è una 5 ottavi, quella con la base magnetica. No, lo so che antenna hai tu. Aspetta un attimo. Allora me ne voglio cavare la soddisfazione. Natali, tu ci sei più di 30 anni in radio, ma mi meraviglio di te che non conosca ancora quelle antenne lì. Tutte le antenne sono un quarto d'onda, cioè che senso avrebbe mettere un metro e mezzo di stilo, no? E poi metri e metri di bobina, che senso avrebbe per raggiungere i 5 ottavi? Che senso avrebbe? Non avrebbe alcun senso. Aspetta. Sì, poi quello che c'è scritto su internet, che ti dichiarano, sono balle. La LEM dichiara che la Turbo 2001 è 5 ottavi, non è assolutamente una 5 ottavi, sono i truffaldini quelli alla LEM, capito, che lo affermano. Questa, tu vai su Roger K e vedi cosa ti dicono. Gli esperti, diciamo, dai. Allora, 1,60, vediamo un po' cosa dici. 50 ohm, centrobanda, 800 watt, polarizzazione verticale. Aspetta, già lo sto leggendo. Perché sennò è truffa in commercio. Se non è una 5 ottavi, capito? È truffa in commercio. vabbè, lo so, sono dei truffaldini, anche la LEM. Però siccome ci sono i polli, no, soprattutto i camionisti che hanno queste Turbo 2001 e sono convinti che siano a 5 ottavi, cioè per loro mettere la Mantova o quella è uguale secondo loro, no? Allucinante, guarda. Se mette la Mantova in macchina, guai, guai al mondo. Eia, Natalia, aspetta che... Dunque, fra poco è ora di mangiare, cambio anche baracchino, dai. Claudio non si pronuncia. Claudio sta lavorando. Anche perché non lo sa e quindi non si pronuncia. Che cosa è che non so? Nulla, nulla. Esistono 5 ottavi da macchina, antenne veicolari 5 ottavi? No, non mi sembra. Perché l'hai sentito da me che l'ho detto io. Eia. E poi qualcuno anche va a dire che sì, sarà, non sarà una 5 ottavi, ma rende come una 5 ottavi. Vabbè, contenti loro. Asco. Un quarto d'onda è un quarto d'onda, non rende come una 5 ottavi. Io non sento niente perché ho cambiato il radio, se te ne sei accorto. Basta, non ho più 440, quindi la radio era spenta. Ho acceso adesso il 440. Ma che sappia io, no, per la mia poca esperienza, perché io mantenne di macchina non li ho mai montato, non li ho mai comprato, non ne comprerò mai, perché ora di macchina non ho messo. Per quello che ho sempre sentito non mi sembra che non ce ne sia. Infatti non ce n'è, però la LEM, che è sempre stata un'azienda, la Turbo 2001 la dichiara sul catalogo 5 ottavi, è vero che i polli ci credono i polli, capito? E dopo che convinci qualcuno che un quarto d'onda ti vanno a dire vabbè, non sarà una 5 ottavi ma rende come una 5 ottavi, che senso ha? Un quarto d'onda rende come un quarto d'onda, non rende come una 5 ottavi, ui. Eia, bene, dai. Vai Natali, vieni avanti, dai. Eia, Valerio, c'è ancora? Sì, sono qua ormai sulla strada per Sorso. Eia, beh, segnale già. Tutta un'altra storia. Bene, adesso Natalino sta sperando di trovare la scritta 5 ottavi, mi per con l'antenna sua, la PLC 800 l'ho avuta anch'io, la conosco benissimo, l'ho avuta 30 anni fa. Mi dispiace rompere i sogni di gloria, ma quarto d'onda, tutte, che siano lunghe 30 cm, che siano lunghe 2 metri, sono sempre un quarto d'onda. Cioè, se tu guardi la bobina dentro, è poca, di un'antenna da 1,60-1,82 metri, è poca la bobina, se no sarebbe 2 metri di stilo, come si dice? Sì, no, ma dentro la cosa, la bobina, per esempio quella che ho io, dentro la bobina ci saranno massimo, se ci sono anche, 90 centimetri di filo, massimo. Eia, sì, beh, è ovvio, quanto è lunga la tua però? Dalla base sono 2 metri. Ah, la Turbo è, no, la Turbo è. È la, sì, non so, Turbo, la 3001. Eia, cioè metti che il solo stilo sia... Solo lo stilo. 1,70 ci sarà, 1,80. Poi bene o male li vai a sommare la lunghezza della bobina e se, insomma deve risultare un quarto d'onda a me tra stilo e bobina, c'è poco da fare. 2,75 deve risultare, no? E lo stilo sarà 1,90 lo stilo. 1,85 o 1,90, non di meno di 1,85. Eia, sì, tolta la bobina, proprio tolta la bobina, togliendo tutto il pezzo. Eia, Natalino, l'hai trovato 5 ottavi, io? No, sta sperando di trovare la scritta, perché lui se vede scritto 5 ottavi, lui ci crede, se lui vede scritto 1000 ottavi, lui ci crede, capito? Ed è convinta di avere un'antenna a 1000 ottavi. dai, non ci credo, dai. No, io non l'ho presa per avere un'antenna a 5 ottavi, io l'ho presa perché c'aveva buone prestazioni e basta, solo quello. Per esempio l'antenna, una delle antenne più performanti, la Turbo della Sirio, è Performer 5000, una delle più performanti antenne, detto da Luigi Vulcano, faceva anche quasi le scarpe di poco alla Turbo 2001, ed è però sempre un quarto, la bobina è corta, sì, lo sarà 1,80, più devi contare anche la lunghezza dello snodo, sai, perché anche quello ti fa lunghezza elettrica dell'antenna. Natalino, riprendi, aiuto. Natalino, aiuto. E io fra poco cambio baracchino, dai. Voglio quello che esce meglio. Cambia, se no rimango in ascolto. Fra poco, dai, aspetta che guardo l'orologio, comincio a prenderlo, dai. Che io lo devo dissotterrare dagli armadi, capito Valerio? E tu c'è la montagna di baracchini. Già la voglio proprio vedere, perché non fai una fotografia e me la mandi? Anzi, sono diminuiti perché ne ho dato uno a Pomponio, un altro venduto piccolo, poi uno regalato, e sono tre, e due dati a Natalino, e sono cinque in meno, quindi se erano 15 adesso sono 10, ma nemmeno. Quelli piccoli io non li conto, quelli micro omologati che fanno schifo, escono proprio male, non li conto nemmeno. Ah, non li conti neanche, ma in totale quanti ne avevi? 40? No, 20? No, una quindicina, contando proprio anche i portatili e gli omologatini, quelli micro che servono solo per la concessione. Ah, quelli omologati, ho capito, sì, vabbè, tutti, diciamo una quindicina, tutti quanti, ci siamo, sì. E adesso sono diminuiti fortemente, vediamo se potranno, però quelli buoni, c'è poco da fare, quelli buoni sono multibanda, tutti i modi di emissione, no, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi multibanda, multicanali, capito? Tutto il resto è robetta omologata che manco a nominarla. Vabbè, dai. Ma cosa te ne facevi tutti questi baracchini qua? Ah, madonna, sì, vabbè, mi piacciono le novità, questo e quest'altro, però che poi tu usi sempre lo stesso, no? Usi sempre uno, e allora inutile averne, che so, 20, 30 baracchini, che poi uno usa sempre quello. A me piacerebbero, però non me ne faccio niente, capito? Io uso sempre quelle e basta. Io avevo le mani bucate, però quando usciva un nuovo modello io diventavo matto, non ci dormivo la notte, dovevo averlo, capito? Ah, mani bucate, allora è diverso. Poi naturalmente li uso a rotazione. Bisogna rotazione perché a lasciarli fermi si rovinano, quindi ogni tanto ne metto uno, ogni tanto l'altro, così in una settimana bene o male li faccio girare quasi tutti, non dico tutti ma quasi, quelli importanti, gli altri li lascio nella polvere. Però quelli là si guardano, anche quelli dovresti usare o matto, è inutile tante, cioè averli e poi non li usi. Tanto mille, omologato buono è questo, Superstar 3009 omologato, che ha anche la banda laterale, l'FM, questo è io prima, perché avevo quegli altri omologati, micro, per la concessione, per farli vedere in concessione, adesso che c'è questo, che è omologato ma è un Superstar, cioè un'altra guba, gli altri piccoli non li considero più, sono schifezze, escono male. Sì, ci sono quelli che sono bene e quelli che fanno schifo, diciamo. Poi io ho sempre questo in macchina, cioè volevo prendere qualche altro, così tipo modificato per avere una motorazione un po' più potente, però già va bene così. Mi tengo questo, c'è le bande laterali, già va bene. Prima c'erano più canali, ho rimesso le cose come erano prima, in origine. 40 canali, macchine, basta avanza, tanto siamo sempre su entro i batteria. Sì, potresti mettergli 5 watt, farlo regolare perché io so regolare. Torno subito, dai, torno subito. Eccomi qua, questo è l'apparato uguale a quello di prima col display blu e un po' meno omologato. Ecco qua, microfono da tavola MB più 5, guarda che differenza, eh? Eia, Natalino, ci sei ancora? Eia. Ebbene, l'hai trovata quella scritta, perché ricorda di mentono i venditori di antenne, mentono per vendere, è chiaro, no? Lui truffa, nessuno li ha mai truffati per quello, cioè basta aprire la bobina e vedi che c'è poca bobina, no? E Claudio, ancora facendo sta? Claudio, tanto se non puoi cambiare il pezzo, cosa sei lì? Non devo vedere, si è bruciato la resistenza, si è bruciato il termostato. Ma che ci vuole molto. Capito? In ogni caso gliela metto diretta, no? Eia, eia. Lì c'è la ventola? Sì. Beh sì, c'è il termostato collegato sul motorino con la resistenza e fa partire a temperatura, mi pare 60 gradi, una cosa del genere. Insomma, non ricordo più, e da tanto non la faccio di sì, 80, 140. Sto guardando il tester, se è interrotta. La ventola gira bene. Vabbè, sono qua comunque, vi ascolto. Ehi, siamo sempre ai minimi termini, dai, siamo sempre quattro gatti, sta diventando alienante anche la cosa, siamo sempre noi quattro o cinque disperati, dai. E tu cosa proponi, di chiudere il tutto? No, chiudere il tutto no, ma ci sono certi giorni che proprio, per esempio, di entrare al baracchino magari non ne ho voglia. Se poi spesso non sappiamo di cosa parlare, stiamo lì, boh, così. Beh. Purtroppo si è spezzata in due la frequenza, quindi sono degli individui che vanno sul 20 e noi che siamo qua. Prima eravamo tutta una ruota, capito Natalia? E io ho capito. Allora, ma c'è stata un'antenna e io nessuno può entrare. Ma di nuovo il cuore mi è salzato di botto, mi. Non ce n'era il cuore di botto. Questa roba elettrica, mi. O fon, o chissà cosa è, cosa malanno è. Sì, ma te l'ho detto, siamo sempre quattro disperati, quattro, cinque, i soliti, mi. Se c'è la notte è anche alienante. Non è una decisione nostra quella, no? Noi siamo qua e continuiamo a stare qua. Se tu vuoi entrare, che era aperto a tutti, noi non abbiamo contenziosi con nessuno, capito? Se non entra uno, mi fa piacere che non c'entri. Se puoi entrare, il canale non è mio, non è che a me... L'ho comprato il canale. Ma lo sai cosa ti dico, eh? Poca gente me li offesta. Bravo, poi insegnaglielo a Marco. Come dire, meglio pochi ma buoni, così è? Proprio così. Eia, Valerio è arrivato a sorso, mi pare di aver capito. Vediamo se sei sceso, Valerio. Mi pare che è sceso. Vediamo se parte. Questo sia il tanto di Giuseppe. Va bene, le radio? Sì, ha dei toni un po' più bassi rispetto ai tuoi, leggermente più bassi. Ma Giuseppe, non ho capito il baracchino. Un giorno era Santiago 5 e mezzo, poi ha cominciato il giorno dopo 5, il giorno dopo 4, diciamo ancora a 3, ieri era a Santiago 3, si sta andando abbassando. Sì, buono, non so, se domani ci deve andare. Domani ci devo andare, mi riaggancio l'amplificatore, vedrai che lo senti bene. Sul tempo questo, devo rimanere qua. Ascolta, ma le stazionarie le avete controllate a Giuseppe? Per sapere se ha stazionari? Vero, già, cioè, un po' di sa Grand Prix già di controllare, vero. Ah, ok. Ascolta, ma è una Grand Prix, diciamo full size o è una Grand Prix, mini Grand Prix? Una Grand Prix grande, la radiale da 2,75. Tutte e tre da 2,75 ce li ha. Centrale, no, è qua. Centrale più 3 a 45 gradi. Eia, è come quella che avevo io una volta. Ho avuto nell'84 la Sigma GPVR. All'inizio è andata bene, poi è cominciato ad avere un drastico... ho cominciato ad avere un lieve calo di trasmissione e ricezione. Cioè, i segnali sono proprio scesi in ricezione e anche in trasmissione. Quindi sicuramente come si è ossidata ne è falata a me di segnale. La mia è stata così, me l'hanno detto tutti, sei più basso. All'epoca me, me lo ricordo ancora. Vabbè. Giuseppe mi ha chiamato. Valerio, avanti. Ah, buono, buono. Avanti Giuseppe. Radio 1, ciao. Giuseppe, avvicina il microfono alla bocca però, che non si capisce niente. Allora, se non ce la fai non modulare, Giuseppe, che se non stai bene non modulare, ascolta e basta. Ok, non si capisce niente quando parli, Giuseppe. Stai in ascolto, riprenditi un attimino e poi modulo, ok? Già siamo qua noi. Figurati, Giuseppe, non avere suggestione di niente. Se non puoi modulare, non modulare, ok? Stai sereno, tranquillo, non ti preoccupare. Ascolti, quando ti riprendi un attimino, allora ti metti a modulare, ok? Non sta bene, no, Marco? È un problemino e non sta bene. A volte non riesce manco a parlare, non so, capito? Quindi è meglio che ascolti, ok? Non le rilanciate, lui già lo sa che io glielo dico tranquillamente, senza problemi. Avanti, vai. Campagna sì che io ci va forte. c'è 95 che se ne sta ridendo. 95 c'è in campagna? Eh beh, no, non l'hai messa. È nuova nuova. 95 se ne sta ridendo, è in campagna. Sopra 12 metri di palo e se ne sta ridendo. Qua non la potevo mettere un'antenna così pesante, no? Ma ridendo che se ne sta, però, ma ridendo che se ne sta, giù giù. Dimmi Luca. L'antenna in campagna a 12 metri di palo, va lì, cioè, va lì, sai dove abitava lui praticamente prima di sposarsi? Abitava su a Filighetto, su nella zona alta di Filighetto. Con la Mantova andava da tutte le parti, che come si dice in Cagliaritano, che mica con nada. Beh, da là sì, che miseria, altro che si sparava. Vedi. E allora falla andare, vai in campagna e falla andare questa antenna. Cosa mi sono perso? Niente. Niente, una scatola di baci perugina. Valerio, sicuramente mi sentirei più forte adesso, ho attaccato anche la scarpetta. Non c'è bisogno, prima ero perché ero lì alla cantina e non sentivo neanche Claudio, figurati. Perché quella zona lì è proprio coperta, non ti sentivo, poi c'erano anche degli alberi, peggio ancora. Adesso mi sono, ho sotto già da 10 minuti, a voglia. Ah, per quello. E che vino è? Che tipo di vino è? Cannonau, a me piace Cannonau. A te ti piace Cannonau, a me piace Cannone. La brittella gli piace. È proprio il cannone che fa male, che bello. Luca Cuocomane. Buonasera a tutti e buona Pasquetta, buona Pasqua e Pasquetta, ce lo voglio fatti, gli auguri. Grazie, ancora tanto, Giulio Delimbari, noi mi ha detto buon primo maggio, no? Primo maggio perché? Feste dei lavoratori? Feste dei Rigaroni. Ma già? La feste dei Rigaroni è... Primo maggio? E via. Non è la festa del cuore idraulico? Una festa del Zapparetti. Ma attaccato sì, se no è un bel forte, c'è anche, non dico sacro, ma quasi da me, c'è compresa la modulazione. Vai, vai e buttacelo quel baracchino. Guarda, sono in scala 20, sto usando C80 che sto riparando praticamente e ce l'ho aperto. In scala 20 sto andando con 10 watt e 20 modulati. Mickey Gain sotto la C, perché questo c'è lo slider e processore inserito. Non c'ho altro, va. Non ho capito. Secondo me, di solito la tua modulazione è forte, chiara, questa rimane un po' più spinta, come se hai qualcosa sotto. No, forse è troppo alta di Mickey Gain, aspetta che lo abbasso. Di solito lo tengo così. Ecco qua, così va meglio. Adesso fai. Guarda, guarda, così va meglio. C'ho sotto la C, prima era tutta maledetta. Vabbè, ti ho attenuato, ma è sempre forte la modulazione. Non lo so, ma usare la mano a chiunque ti voleva fare davvero. Quanto che. Okay. Sì, vabbè, però qualche soldino in più me lo compro uno di quelli tipo, non so, S5, S9. Ci sono anche gli S10, gli S11, capito? Poi c'è l'F12, se ci puoi parlare prima. Niente, Super Sar sono i migliori, Pluto, Tornado, quelli sono i migliori. E c'è anche il gatto silvestro. Gatto maldestro. E beh, a me non me lo dai, cosa, come si chiama? Il Connex. Il Connex 4000, stessa scheda, quello che ha dato Pomponio. Allora Pomponio ha dato il baracchino nuovo, questo marco è un bastardo. No, c'era da fare roba, ci aveva dei falsi contatti sia sul display dei canali, ogni tanto gli dovevi dare un colpo, sia sulla modulazione, lui ha risolto tutto, erano false, come si chiamano, saldature fredde o saldature vecchie, dai. Ma ti ha dato un barroccio, ti ha dato saldature fredde e fredde o comunque vecchie, perché insomma con il 4000 è di 20 anni fa, è più del 90, 90 e dintorni, quasi 30 anni. E vabbè, comunque sì, col tempo, no? Diventano così. Sì, poi, punto. Luca, tu mi ascolti bene, sto usando l'MB più 5. Sì, ti ascolto bene. Bene. Mettiamo schiena 200. Ura. Ok, se non sale di calore questa radio, non vedo se la vento la parte o non parte. Gianluca, si vede come si scalda? Ma io poco sotto qua, metti due canarelle di coso, di due paghette di tappaletta. E allora Giuseppe, metto due uova, capito? Tu non ti sei mai accorto mentre modulavi che mettendo la mano sopra la radio bolliva, no? Non te ne sei mai accorto Giuseppe? Perché era già bollita, capito? Tutta la parte della ventilazione, gli alunni da 150 watt è importante, ma non è nulla. Beh, adesso faccio un giro a sassa, dai. Da subito? Sì, ma qua colpito il piede non c'è più. Qua non difetta quella parte lì, qua la radio va in protezione quando inizia a superare i suoi gradi, perché non ti fa andare in trasmissione. C'è la ventola che non parte, capito? Ho cambiato la resistenza e adesso sto aspettando che arrivi alla sua temperatura per vedere se parte. Capito? C'è il latte, vabbè, ancora è fredda, aspettiamo che scaldi. Poi ho già risolto il problema. Si vede che è cotta. Ottava. Cosa Giuseppe? No, la radio con l'MC60 funge tutto a posto, non c'è nessun problema. Adesso prima che avesse parte la ventola, ovviamente sono rimasto sino a tardi, l'ho fatta arrivare bella calda, però poi mi è andata in protezione. No, non parte la ventola, adesso ce l'ho scoperchiata, capito? È aperta la radio, lui per quello magari mi senti male. L'ho aperta al libro e la sto usando per vedere se c'è qualche movimento sexy. Grazie Giuseppe, grazie. Poi ti farò sapere. Ok, avanti, vale, cosa hai detto, ottava? Sì, sono qua a ottava. E faccio un giro a Sassari adesso. Cosa Sassari, non viene più, non vuoi fare. Non ti conviene scendere a Polottoso e fare un giro a Polottoso a lungomare a vedere qualche chiappa chiara? Sì, alla prossima volta, dai, la prossima volta vado presto, Polottoso, scusami, faccio un giro. Non c'è un cane, Sassari, cosa? È tutto moscio. Iniziamo a fischiare sta a me. La vedi, invece. Qualche segno ce l'ha a me. E viva la radio. Già si riprende, dai. Con te già si riprende tutto. Io mi sa che sono io l'ho presa. Ah, qua. Ah, ecco, è Claudio che mi ha venduto. Quindi io... Aspetta, sto facendo le prove un attimo. Fonghi a Rai 1. Guarda, Rai 1. E che è successo? Rai 2, vuoi che mi un attimo, sto facendo delle prove. Dovrei fargli strisce e cose. No, strisce no. Scompare l'immagine oppure la fa quadrettata. Ma non fa nulla qua, capito? Dice questa signora vicino a me e dice che gli scompare l'immagine a lei. Però io non lo sto usando il baracchino, lo uso solo in ascolto. Ma non è detto che sia tu. E tutti quelli che hanno strisce, cioè che vedono male la TV, vanno a chiedere a quelli che hanno il baracchino. Solita storia. Lo so, anche a fianco io ce l'ho l'antenne radiali. Dovrei fare il TV e prima a me. Se non vi turbi tu, non vi turbi neanche quello degli altri. Già lo so. Però, e poi può darsi che abbiano le antenne di quelle tipo vecchie loro, e non ci abbiano quelle digitali, e magari se non sono io sarà qualche altro che li disturba, perché io non uso quelle antenne mia, l'ho messo anche al massimo per farglielo vedere. Alla vita ce l'ha il baracchino questa mia amica, ha capito? E lei ascolta lo stesso. Così è. Comunque, no, sicuramente non sei tu. Non lo so. Me. Come senti, so me? Si stanno a rompere le balle, stanno, per carità di Dio. Io lo sapevo, il tuo paziente è uguale, guarda, cioè. No, no, io maggio ci vuoi. No, vabbè, perché ha fatto la radio, esco per chiappa. Allora, la pappa è quasi pronta, dai. Tra poco sparisco, eccetera, e mi metto a mangiare. Ma lei ti riprendi. La pappa è pronta! Io sono qua per Danietta, adesso giro e me ne vado a casa, io dai. Già vengo un altro momento a Sassari. E buon pranzo, Marco. Grazie, grazie. Adesso sono liscio, sono qua. Se non puoi mi. Capace bussa, no, vediamo la TV, adesso vediamo. Uff. Ah sì, è passato anche troppo tempo, prima che bussassero. Da Natalino mi. Troppo tempo è passato, subito dovevano andare. No, siccome l'hanno vista, no? Fai domanda alla TV. Magari c'hanno antenne vecchie di 30 anni con l'acqua dentro la cassetta, no? Appunto, sì, ma lui se ne deve fottere e basta. Natalino, è il baracchino acceso? No, meglio di no. Meglio che non sia acceso. Se non dice. Se ha dubbi, mandi l'escopost, si paghi i 600 euro di intervento e controlliamo il mio impianto e il suo. Si paga l'intervento però. Certo, non ho capito bene, cosa deve pagare lui? Certo, l'intervento lo paga chi chiama, no? Poi verificheranno il suo impianto e anche quello d'antenna. Se non c'è 600 euro, non chiami nessuno e si tenga disturbi. Non ci credo manco per le scatole che lui. Ma non è possibile, dai, no, non fa. Io avrei dato il numero di telefono, senta, lei telefoni, poi. Dai, pronta la pappa, a dopo. Già, a dopo, ciao Marco. Ciao, sta andando Marco. Mi devo mettere il mangime nel piatto, mi. Cavoli con le olive. Cavoli con le olive. Buona, ah, che mi invitino. Non funziona, non va la ventola. No, ce l'ho aperta, vale. Adesso sto aspettando un attimo che arrivi alla sua temperatura. Vediamo se parte la marcia. Perché si attalla? Oh, volevo specificare, non cavoli con le olive, cavolfiori con le olive, ovvio, no? Buone! Fanno anche scorreggiare, mi. Beh, questo non lo so, eh. E cosa fanno scorreggiare? Che cosa fanno scorreggiare i cavoli? Sì, un po' sì. C'hanno quella sostanza, un po', come dire. Ma fanno bene. Natalino, ci sei? Sei ritratto? E lo sapevo che prima o poi. Capito, siccome vedevano male magari la TV anche prima, perché sono sicuro che è così, adesso che hanno visto l'antenna, capito, vanno a bussargli alla porta, il colmo. Così funziona, ma capito, no? Chi è che non esce? Ero io, là. Chi dice ha voluto televisore. Lascia cantare Natali, lascia cantare. Altrimenti li fai, senta, questo è il numero del suo posto. Numero di telefono, chiami lei. Sei solo Natali. E via. cioè non c'è più l'interessata, no? No. Ehi, siccome chi c'ha l'impianto vecchio sicuramente i disturbi ce l'aveva la prima, adesso hanno visto l'antenna, subito, ah, allora il baracchino, capito? Quella è l'antifona. Gliel'ho detto io di cambiarsi le antenne, di mettersi le digitali se ce le ha di quelle analogiche, perché probabilmente è perché c'ha l'antenna messa male, che e poi gli ho detto io lo uso pochissimo. Ascolto più che altro, ha giudito. Ma ti ha detto da quanto tempo vede male? 3 giorni. Caso strano da quando c'è l'antenna, no? Così è. No, ce l'ho di più di 3 giorni io l'antenna. Ma sai, quando avevo l'antenna subito stando lì, ormai, sai cos'è? Ti faccio l'esempio, l'antenna di casa, no? Quando c'è il vento, si interrompe. Perciò non è che possono dare la colpa al baracchino. Come si può interrompere la mia, si può interrompere di qualche vicina. E lui subito pensa all'antenna del baracchino. Infatti tu prima l'avevo piazzata, e io con il televisore salta. Ma se non sto parlando, ma guarda, la dà fastidio, detto, ma lo stesso anche se non parli. Ma vai caga. La stessa cosa per me, la stessa cosa. Ma lei ce l'ha acceso? Sì, ce l'ho acceso. Ma se sto parlando con lei, come faccio a disturbare la televisione? No, ma la gente è fuori di testa. Poi i mali dicono che l'antenna, anche se è piazzata e non stai modulando, disturba. Capito? Ecco dove è il problema. Però la gente è anche ignorante. Vabbè, io c'era un periodo, Claudio non sa che mi disturbavo molto. Perché purtroppo... La TV era un po' vecchiotta, proprio di quelle vecchie vecchie. Adesso da quando siamo in digitale, perlomeno non ho più disturbato. Ho notato una cosa, forse quando si bagna la mia antenna entro un attimino lì nel computer, nell'audio. Vabbè, quello lo fa anche a me, nell'audio e basta. Ma nella televisione no. Prima disturbavo, adesso non disturbo più, cioè va bene così. E la gente che non capisce niente, ignorante, boh, quando vedo l'antenna, disturba! Ma vai a cagare, io ti mando subito a cagare, cioè va bene così. Forse è l'unica, ma dai a cagare. È l'unico che fa così, boh, se uno vuole, cioè, come una cosa a Natalino. Lei pensa che io stia disturbando, allora le do il numero di telefono dalle sue poste, chiami e vediamo un po', se lei prende da lei sono cazzi suoi. A uno 10 anni fa gli ho detto, pare, che era venuto qua, no, a protestare, 10 anni fa proprio, non ero neanche io, si è entrato al portone qua, c'erano diversi lavori che stavano finendo facendo, ho detto, ma scusi, ma dove entrate lì? Al portone, ma non è che voi uscivo la finestra, e come faccio a uscire la finestra? Mi venga che glielo faccio così, si notennati, 5 minuti di tempo ti si cura la cosa, è sparito, mi sembra che è cambiato anche casa. così vuole, gente di merda, non capisce niente, gente non capisce niente, ma a me questa gente qua fa proprio incazzare. No, io mando a fanculo, io non so lì gira, mi mando a fanculo e basta. Ma io non c'ero neanche, ero al lavoro, figurati, mi aveva chiamato mia moglie che questo voleva entrare qui e là, ma sono arrivato a casa, lo sono per campo, ma tu dove sei entrato per andare a casa mia? Dal portone mi ha detto, cioè il portone aperto. E non è che poi c'è la finestra, no? E come faccio a uscire la finestra? E via che faccio vedere. Se ti torno a Trevia, vicino a Cagliana di Gaggia, ti sicuro la vacuna. Cammina, vai, parti! Non ti permettere mai più. Non scende, ha cambiato casa, in giro pochi anni c'è neanche andato. Quello le ha preso uno spavento, Cla, le ha preso uno spavento e se ne è fuggito. 10 anni fa era il primo anello di adesso, quindi non temo nessuno neanche adesso, sia ben chiaro. Ma 10 anni fa era un po' più moedro, capite? È assurdo, non c'è più vito. Come ti permetti? Non ce l'ho neanche io. E questa la televisione, e poi mio marito non c'è al lavoro, ma cosa vuole? Capite? L'ultima che mi hanno fatto qua quando ho montato le direttive, passata l'acqua, un temporale, un'alluvione, cazzo, parte un fulmine, è sceso qua nella cabina elettrica, mi avevano denunciato che io con le mie direttive, proprio c'era scritto che io con le mie direttive avevo attirato il fulmine. Che animoso che è. Fanno proprio così, no? Gente che non capisce niente. A me, io quando ho messo l'antenna lì al palazzo, che mi hanno dato il permesso, il condominio, no? E poi il proprietario del terrazzo mi ha detto, questa antenna tira i fulmini, questo e quest'altro, e guarda, il fulmine non è che cade per forza sull'antenna, quello lì non si sa dove cade il fulmine, capito? E già mi ha fatto un po' di storie, mamma mia, prima mi dai il permesso, poi mi rompe le palle, capito? Sempre così fanno perché sono condizionati dagli altri, capito? Sono condizionati dagli altri, no? E fanno sempre così. Però io non sono condizionato a nessuno, perché nessuno devo chiedere permesso a nessuno e quindi non me ne fate niente. Non ho mai disturbato, figurati. Forse qualche riga facevo quando ero ancora cantiere, ma ci abito dall'85 qua. E grazie a Dio già ne uso di bella roba, non è che uso 4 watt o 5 watt, quindi perciò. Niente, poi non mi hanno mai più cercato, mai avuto nessun problema, niente. L'unica cosa, avevo fatto una riunione, avevo fatto direttiva, e poi amministratore. Piano piano, siamo alla povertà, piano piano, diventa una caserma. Tu, l'ho detto, quando cammini, che entri dentro il condominio, invece di guardare in alto, che puoi cadere e farti male, guarda in terra dove stai camminando, che cazzo te ne fotte a te cosa c'è nel tetto, roba tua. Così fanno così, allucinante. Sicché Natali, lascia cantare, fottetene. No, lo so. Siamo una... Ma qua avrei disturbato tutto il quartiere qua. E non disturba nessuno, se non me l'abbiano detto. Chi si di fronte, di fianco, tutti li avrei disturbati. Ha già detto che... Vabbè, uno mi ha detto che disturbavo internet e che non riuscivano a giocare. La gente è proprio malata mia, è proprio malata, non ne capiscono niente. Ascolta, allora, tanti anni fa, all'ultimo piano, la signora dell'ultimo piano ha dovuto cambiare le antenne TV perché vedeva male, no? Ha chiamato il figlio di Prospero, no? Quello ragazzo un po' bronzato, come ha detto quel politico, e sono saliti sul tetto, come ha visto l'antenna, no? Un'antenna, una boomerang, dice, è quella che disturba, è l'antenna che disturba. Pensa che non c'era neanche il cavo, perché io il cavo vecchio l'avevo già tagliato e portato giù, ed era l'antenna che disturbava. Allucinante. Ma solo vedersi l'antenna disturba, è così, una mentalità del cavolo. Quando vedo un'antenna, ma quella lì disturba, anche se non c'è niente attaccato, capito? Sì, è vero che questo è tecnico, questo ragazzo è tecnico installatore di antenne, figurati. Poi roba di 300 euro che sono 600.000 lire per mettere uno schifosissimo di antenna TV. Tu immagini, antenna primo, antenna secondo, il palo c'era già, antenna primo, antenna secondo e 15 metri di cavo, 300.000 lire, 300 euro, 600.000 lire, quando noi prendevamo, poveracci, con un amico 50.000 lire di mano d'opera. Materiale 50.000 lire, questi arrivano col camice bianco, no? Con la targhetta a sinistra tipo NASA, tipo quegli esperti della NASA, capite? Si fanno pagare una follia per un'antenna TV. Mio zio pensa che i vicini gliele installava gratis, siccome abitavano lì e non ne sapevano mettere, gliele installava gratis, gli davano i soldi del materiale e gliele piazzava gratis. Anche da noi, guarda, sono 3 anni fa, però me. Anni fa è venuto il tecnico, doveva cambiare le antenne della televisione e l'amplificatore, ci ha preso un pacco di soldi, ma un pacco di soldi veramente. Poi è salito sul terrazzo, ha visto l'antenna in baracchino e ha detto, com'è questa roba qua? Questa l'antenna in baracchino. E mi ha detto, sai cosa mi ha detto? Ma è filtrata, già è filtrata, sì. Mi ha detto se era filtrata l'antenna, già è filtrata. lasciato perdere perché altrimenti dovrebbe andare a cagare, perché non capisce proprio la mappa. Sì, non glielo potevi dire, certo è filtrata, stamattina ho fatto il pane. Già glielo ho detto che era filtrata, poi ho lasciato perdere, ho troncato subito perché altrimenti mi rompeva le balle, capito? Senti la ventolina? Che è un mostro gioco. Beh, pasciuta è... là. Meglio. Ah, senti. Bella, bella, bella, bella. La resistenza bruciata. Che culo che c'è, Giuseppe. E cosa fate? 100 gradi. Valerio? No, 60 gradi neanche parte. Questo ce l'hai più di un'ora acceso, non lo so io. La potenza bassa, vale, ce l'ho a 20 gradi, cioè a 20 gradi, scusa, a 20 watt, 30 modulati. Io notte l'ho eccitata un bel, io notte ce l'avevo a 100 watt, capito? E infatti mi è andata in protezione, adesso sta andando benissimo. Valerio? Io sono qua fermo, sono sulla quattro corsie, sono fermo, altrimenti poi non mi sento più. E dimmi Marco. Sì, uno aveva fatto delle telefonatacce qui a casa dicendo che che disturbavo, che mi mandava la polizia postale e che usavo i potenziometri che non li potevo usare. Potenziometri, sicuramente lui ha sentito la parola potenziometro, no? Che può essere quello del volume, lo squelch, e l'ha immaginato come una cosa che dà potenza, e figurati l'ignoranza alla gente. Ah, hai ragione, potenziometro, potenza, hai ragione. ignorante così. Capito? I potenziometri li usavo e non li potevo usare, ti vengo in giro. E tu perché li usavi? Ah? E se no non posso regolare né il volume né lo squelch se non uso i potenziometri. No, non li devi usare, spegni tutto. Oh, la gente si trova di tutto di più, non capisci proprio niente. Però la più bella è quella dell'internet, che non riusciva a giocare il figlio col computer. Ehi, il colmo, quello è il colmo. Dica a suo figlio di fare sport invece di stare attaccato a questo cacchio di videogiochi. Ma non si fa mia, no, sì, internet si funzionava male. Che pittina. Perché certe volte ti viene voglia di rispondere male apposta, quando senti certe baggianate. Beh, che inizio a avviarmi, va. Vediamo un po' se vi ascolto. Dove stai andando? Sono fermo qua, dove sono fermo? Boh, c'è uno svincolo qua per l'argentiera, ecco, sono qui sullo svincolo per l'argentiera. Adesso proseguo. No, ero fermo qua sulla piazzola, altrimenti poi non vi sento. Cioè te sì, ma gli altri non lo so. Quindi non eri a Sassari, eri già partito, sei già andato via a Sassari. Sì, sono arrivato lì a Predanieta, lì a Bricomen. E poi sono tornato indietro. Sì, ok, dai. Ma ora devi passare, ti vorrei. Ma io sono incoglionito, sono. Ho preso questa radio. Sì. Adesso si è fermata. Vedi? Quando tu riprendo a parlare, lei parte. Adesso che è fermo, ne metto un pochino di vasellina. Bella, levi, tutta pulita e ordinata. Va bene, la resistenzina quella a lenticchio ha bruciato che c'è sopra il motorino, la mazza che te ne varia. Adesso funziona, allora siamo a posto, dai. Sì, funziona. Già entrata in funzione, adesso faccio entrare in funzione un po' di volte per tenerla sotto controllo. Intanto adesso che è ferma la do una lubrificata, ma è bella silenziosa, c'è un po' di lana attaccata, la metta, insomma, un po' pulita, adesso va bene. 20 watt 50 modulati sta segnando qua sulla T230, abbastanza affidabile. Ok, va bene, riprendi Natalia. E quindi cosa avete deciso? Ha deciso che ne leva tutto. Cosa scusa, chi fa ti vuole, ne togli tutto, no? Non penso. me sta felice. E ha detto Marco che adesso che fai TV, ne dobbiamo togliere tutto. E poi con la fucilata dall'antenna non ne vedi più di televisione, chissà. Faccio questo io, tu mi dirai. Dopo ci abbiamo fatto il culo, vabbè, per l'antenna. Ma no, Finlandi. Ah, fruttettini. Ah, se ne mettiamo un'altra. Un'altra più grande, le metto. Oh, è bello che Claudio ha chiesto. Ebbene, Natali, cosa hai deciso? E cosa hai deciso? Ne arriviamo a tutto. Si tiene di disturbi la signora, se sono del baracchino. Non credo però, non credo proprio. Vai, che se la disturba è perché c'ha le antenne di 50 anni fa. Capito? E magari non fanno neanche un'altra sul palo. Cosa c'è, Conce? Cosa c'è? Le bollette. Si sta lamentando che la luce è alta. La luce alta ti sta arrivando. E te lamenti? Io ogni due mesi mi arrivo a 230, 240 euro di luce. Da disperazione. E non uso amplificatore, non uso niente. Intesa, vai. Ma noi siamo in un buco. Sì, anche se sei in un buco non c'entra niente, capito? A Dagallo ero buono, la piastra, capito? Hai? Oh, Conce, quello è lì che fa salire la temperatura. Asciuga capelli, le piastre che usate, io ne ho due donne a casa, sono sempre a piastra in mano, che anche di quella leva pittorra. Non le usa, Concetta, e poi a noi ci arriva poco la luce, dai. Quando ti arriva? L'ultima gesta cantericcia. Allora, aspetta, non faccio una cantericcia. Allora, 86,92, però c'è 18 euro di canone. Sì, infatti te lo stavo dicendo, anche quello c'è, che hanno inserito, capito? No, vabbè. Valerione, dove sei arrivato? Sto arrivando a Olmedo. Fammi vedere il segnale in questo C80, aspetta che mi metto gli occhiali a vedere se è uguale a quello del 440, visto che ce l'ho aperto. Proviamo anche lo Smith, prova. Vabbè, c'ho i lineari così, La mazza dell'invaria, lo vedici, sì. Ho commutato, prova che commuto il 440. Che a Soscio arrivi da Olmedo. Ah, aspetta, ho trovato una piazzuola, aspetta che mi fermo qua. Aspetta. Ok, dai. Sono fermo qui, dai. Allora, 910 col C80, prova con il commuto al 440, vedete. Allora, guarda un po' così, c'è la stessa cosa, però c'ho sempre con lineare. Ah, ce l'ha lineare, 910 col 440, lo smettere è perfetto. Ciao zio Fra, buonasera, ben ascoltato. Buonasera a tutti. Ho detto neanche a Sorso arrivo da Olmedo. E io ci arrivo a Sorso. No, chi è questo? Basso. E io sono basso. Ciao Natali, arrivi benissimo. Avanti, Craff, non so chi c'è. C'è Marco, Valerio che sta andando ad Alghero, io e Natalino, capito? Che sto revisionando un C80, una pulitina, ne ho approfittato, c'è la ventola che non entrava in funzione, si è bruciata la, non so se l'hai mai vista, sotto il motorino c'è quella resistenza piccolina, lenticchia. Adesso io si è riscaldato, troppo potenza e quindi ha bruciato e non entrava in funzione. Allora gliel'ho cambiato, adesso sta entrando in funzione magnificamente, ne ho approfittato a darle una lubrificata o fra, capito? Adesso la chiudo che ho tutto il coperchio, la parte dei fibri, ventola, tutto aperto. Ce l'ho al libro, sto modulando così. Bene, mi ascolti? Sì, bella modulazione, sempre la solita tua modulazione, bella, perfetta, va bene, vabbè, perché roba da poco allora era. Valerio! Valerio, io ogni volta che arrivo a Sorso non sento mai nessuno, mai! Purtroppo, Valerio, ci sono solo io qua che modulo, e non è tutti i giorni che mi becchi, purtroppo ancora lavoro, Sta per il vino e vabbè, se ne parla tra 15 giorni ritorno. Valerio, fai la prova attaccato e staccato. Sì, appunto, glielo volevo dire anche a Claudio, così sono attaccato, guarda un po' come arrivo qua. Sei 8:15. 8:15 attaccato e staccato, vediamo un po', guarda un po' attaccato così c'è qualcosa che Santiago 6. Vabbè, sono due punti in più, sono. Sì, sì, tipico, ottimo. E come tipico ciò, perché negativi, positivi? No, leggermente positivi. Marco, ma questi disturbi, li sentite questi rumori? Io ho dei disturbi, ciò. Non sblatter, no, disturbi proprio. Franco, allora, io tutte le volte che vengo mai, non c'è mai nessuno, a corso non c'è mai nessuno, Tutti morti, vale, tutti morti. E cosa ci vuoi fare? Se li hanno abbandonati, la radio le hanno abbandonate qua. Vabbè, dai, la prossima volta, dai. Spero di trovarti la prossima volta. Ehi, capo. Sì, speriamo. Va bene, dai ragazzi, sono entrato solo a salutarvi che devo uscire. Ci sentiamo tutte le prossimine. Ciao Valerio, buon rientro, buon tutto, ci sentiamo tutte le prossime. Ciao Marco, Claudio e Natalino. Alle prossimine, avanti Claudio, se ci sei, vai girare. Ciao. Ciao Fra, grazie per essere entrato, vai, siamo qua, quando vuoi a Rugiare. Avanti Marco. Ciao Fra, alle prossime. Ciao Franco, avevo il boccone in bocca. Ciao Franco, alle prossime. Allora Valerio, guarda me, hai l'occhio sullo smitter? Per verificare. Allora così, guarda bene, oppure così, ecco qua, 1, 2, 3. E il primo è 9.30, l'altro è abbassato a 9.20. No Valerio, vabbè, quello sì è un po' digitale, quindi sicuramente due Santiaghi, per provare, era, dai. Cosa vale? Santiago quasi nove, sì. Un attimo di bianco e chiudo questa radio, vai, così la provo chiusa e poi vi richiamo un attimo solo. Seria. Natali, sai cosa sono quei rumori che senti? È quella signora che ti vuole disturbare, ha attaccato la lavatrice, il phone, tutta roba rumorosa. Aspetta, ma non c'è rapida il fucile a pompa che ho preso dai cartucci? No, che non dorme, no. Si sente come un soffio forte, capito, l'hai, Marco? In tutti i canali. Ma lo so cosa sto io. Ciao Frank, sentiamo le prossime. Mi raccomando, quando arriva la sorta, fatti vedere. Ciao. 9.10 arriva il segnale. Vabbè, tutti morti. Ah, già siamo qua. Ho messo l'attenuatore, però quelli bassi poi non li sento. Sì, io. E Valerio sta tornando al ghero, vero Valerio? A casa? Io me ne intendo, ma non me ne intendo proprio di vini. Deia, sei molto oscillante, sei arrivato anche 9 più e poi sei sceso. Naturalmente in macchina c'è, oscilla in continuazione, dai, non è fisso. Deia, sì, ti sento sempre, dai. Dici quando arrivi al ghero o città. Me, quel disturbo elettrico anche a me, vai e vieni, Natali. No, ce l'abbiamo tutti, chissà cosa gacchio è. No, ma è roba locale, è roba che c'è proprio qua. Può essere un phone, un asciugacapelli, una cosa elettrica. Bene, bene. Anche... Ah, Lu, anche tu ci sei ancora. Oh, Natalia, anche quelli già bidoni. All'assemblea di condominio l'hanno detto apposta, no? Siccome avevo messo l'antenna, quelli non proprio in buoni rapporti, cioè, anch'io vedo la televisione, di Nesciani Luce, di Nesciani, l'hanno detto proprio per sfregio mio, in realtà la vedono bene, perché nessuno si è lamentato del palazzo, l'hanno detto apposta, per sfregio, guarda che faccia di culo. E a me lo dici. E allora anche qua stanno facendo la stessa. E infatti. Ah, sono sti cuocuomani queste persone, capito? Sono cuocuomani, capito? E si attaccano sempre, sempre le cose quando non ne frega niente a loro. Alleluia. Robert, tu muso la futtini, tranquillo, sì, paga di la gira a tassa, muso la futtini. Ehi. Sa perché mi viene sempre sto caldo? Io mi sento caldo, come se avessi un po' di febbre, e poi controllo e non ne ho. Faccio 36,5, 36, sì, così. Che strano fenomeno, ho le mani fredde, capito? Le estremità fredde. Le dite come sono? Come lui? Ho detto le dite come ce li hai? Le dite! Le zizze? Sì. Io non ne ho zizze. Poi non ne hai, Le palle stai dicendo? Le zizze, cosa sono palle? Scusa, parla in tricolore. No, no, solo le estremità sono fredde, le mani e i piedi. Però mi sono messo le calze. Io sono in pigiama, sono ancora poverino, convalescente. No, io mi asino a mangiare. E poi andiamo a un amico in un circolo. Faccio la catattina, qualche birretta, così, poi odore e poi a domo. Eia, ma non fate mai nulla di diverso? Non so, una gita fuori porta, Valle della Luna, Cala Luna, come si chiama? Calamele Bantaloni. Calamele Bantaloni. Ah no, ma vi ho detto che eravate a Platamona quel giorno, ma l'avevi detto, sì. Cioè, mi ricordo tanti anni fa, col solito gruppo, sempre tutte le sere, Gambrinus, che è un pub, no? Gambrinus, Gambrinus, tutte le sere le stesse facce, tutte le sere allo stesso posto, finché un giorno mi sono rotto le scatole e ho detto, beh signori, buon divertimento, io mi sono stufato di andare ai soliti posti tutte le sere a bere la birra, non mi interessa a me la birra, gliel'ho detto chiaro, non ne bevo quasi mai birra. E non ci sono più andato. Vabbè, no, stasera la birra va bene, come la fresca. Che poi non era per la birra, ma sempre al solito posto, tutte le sere, mica alienante, mi, alienante proprio, le stesse facce, i soliti birra. E quindi non ci sono più andato. Mi scoccio io delle cose, Lu. Quando uno va negli stessi posti sempre a fare le solite cose, mi scoccio e allora mi nando. Penso, mi faccio le cose per conto mio. Vabbè. Alleluia. Ah, si inizia il caldo. Poi mi sono attaccato a vedere i pochi capelli che avevo. Oh, giù, guarda. Sono cubretto. Cioè, poi da testa. Al collo. Sì, io sto aspettando che arrivi un po' più di caldo, intanto da uscire e andarsene, che ne so, a pesca, a Platamona, insomma, che si stia bene, dai, anche di sera. Vediamo un po'. Sì. Poveri, poveri. Valerio, sei arrivato al Ghero? Non so manco dov'è. Ehi, arrivi sempre, ma sì, liscio o attaccato? Oh, vale, mi senti bene, sì? Ok, voi mi sentite bene? Yes. Ok, l'ho chiusa. Devo mettere solo il coperchio superiore. E al libro l'ho chiusa. Quindi c'è il contatto ben visivo. Vabbè. Avanti. Sì, a adesso qua. Si 80. Forse come ha collato bene, adesso sta uscendo molto molto meglio. Da me, La radio è fortissima. La tua radio è sempre la stessa, forte. Non ho niente da dire. È che prima arrivavi troppo distorto, non so. Era aperta, ce l'aveva al libro, capito? Non c'era magari massa, contatto, eccetera, solo chiusa. Però non avevi scelto il coperchio di sopra. Perché perché devo sentire la ventola quando entra in funzione, capito? Va bene, va bene. E 10 watt, ora, ora, 30 modulati, vai, 10 watt, 30 modulati, ancora è fredda. Guarda, io so che in inverno prima di scaldare ci mette un bel, così faceva il mio. Invece in estate scaldava molto molto prima, è beh ovvio. Beh, normale, normale, infatti. Il segreto di queste radio, perlomeno sia 80-140, sono quando c'è molto caldo, te li recuperi qui sopra. Scalda meno e la usi così, capito? Fai meno danno, perché danno è successo, la radio ha surriscaldato troppo, troppa potenza e quindi la ventola è andata in tilt, c'è questa resistenza piccolina lenticchia sotto il motorino, l'ho sostituita fortunatamente, non capisco perché ce li avevo, quella ne ho altre due. Evidentemente è già successo anche alla, alla mia e quindi l'avevo cambiata. Perché i motorini sono tutti uguali, tutti uguali. Mentre invece cambiano le posizioni della, della ventola, dipende dal dissipatore, capito? Ehia. Ma quello è tirato di collo anche, come apparato? Questo c'è lo spoglio finale a MOSFET e questo c'ha 150 watt, è importante, quasi 200 modulati. Però vedi, anche a modificarli, tirarli il collo, poi scalda molto di più. Il mio 140, siccome era originale, cioè c'aveva massimo 40 watt in AM, cioè era originale, originale. Intiepidiva, ma appena appena, anche in estate, intiepidiva poco poco. Forse lì scalda troppo, troppo troppo, cazzo, a dargli tutti quei watt, boh. Questa era la mia, questa era la mia, ma l'avevo fatta per me tutta, io sono così, anche il 440 che c'ho così, la stessa cosa, capito? Però bastano tirare il collo, io questa l'ho sempre usata a 30-40 watt riportante, 60-70 modulati, va bene, come uso il 440, il 440 se levo tutta la potenza, c'ho 120 watt, il picco massimo, capito? Questa era riuscita molto bene, però basta tenerla normale, poi il resto lo fa lei, è chiaro che se sbagli invece di mettere il mic gain al massimo, metti il power al massimo, vai a lavorare, ti ricordi c'era un periodo che Giuseppe lo sentivi molto distorto, molto male, perché c'aveva la potenza troppo alta, capito? Adesso bisogna usarlo così, bisogna usarlo con una potenza minima, non a manettone. Valerio, Valerio di Alghero, mi ascolti, cambio passo. Ehi, anche lì arrivo. 10 watt, 20, 30 modulati, guarda a vedere. Ola, ola, ola. Aspetta, dove è arrivato Valerio? Eia, io sono attaccato però, capito? Non sono liscio. Se no sarebbe tribula cosa. Vedi, è quello che io dico sempre, un direttino, quando c'è difficoltà prendi e vai. No, io adesso non lo tiro, lo lascio a 10 watt. Adesso lascio scaldare e poi magari le do un po' più di potenza, 30-40 watt, adesso poi riscalo a 20, non arriva mai a fondo scala. Scala invece a 200 sono 20-30 watt modulati. L'importante c'è a 10 watt, così la teniamo sotto controllo. Va bene, avanti Natali, ripeti. Ehi, K, oh, yeah, yeah. Ma del progetto dello stadio provvisorio era tirato di collo a vero quello che c'avevo io, già pompava poco già. Se la veniva a fare c'è radio, eh? Boh, non lo so. Tu a chi l'hai data? Come? A chi l'hai data tu? A quello di a Gianni, a quello di Muros. Si è incazzato, ha pigliato, non ha bucato pure l'antenna, ha pigliato la, la matta, l'ha pigliata ammazzata. La radio. E allora, a capo ci vado via qui la matta. L'antenna ha distrutto. Ah, che radio! Ah, me lo dice Santa Fe, mi è venuto a piangere. E che senso avrebbe questa exploit, che senso avrebbe? Io qui, tutto ha distrutto. Ha distrutto tutto, non so, io ho avuto modo di parlarci, ci parlerò. Tutto ha distrutto. O si è incazzato, qualcuno l'ha fatto incazzare. E qua la gente quando non ha le idee chiare fa queste cagate, capito? Quando non ha le idee chiare sulla radio. Cioè incassati, ma venditi tutto, conservale, cosa vuol dire distruggerle fisicamente? Ma è come che volesse distruggere fisicamente la persona che l'ha fatta incassare, in poche parole. Allora, praticamente l'ha data Roberto Quadrato, e Roberto ha messo tutti i chessi nuovi, tutti e due coperchi nuovi. Meno male che Frontalino si è un po' salvato, ma comunque lui ne aveva un'altra e l'ha rimessa tutta, l'ha rifatta nuovo praticamente, capito? Non ha danneggiato l'interno, se no era da buttare quella parte, tutto il genere. E quella che aveva Roberto è questa che c'ho io, capito? Che però era da revisionare e quindi io l'ho mandata da Biancone a revisionare, me la sono tenuta io, fortunatamente. Ma il resto ha disintegrato tutto, anche l'antenna ha fatto il partito, non so perché, non lo so. Ci siamo sentiti da poco con Gianni, mi ha detto che rimetteva tutto in ordine, è stato un momento così, capito? E vedi, che senso ha distruggersi tutto, anche l'antenna, e poi ricomprare tutto, per carità. Sì, vale, io sì. Aspetta. Santiago 6, con picchi a 6:30. Qua per farvi capire la ricezione che ho, tra la differenza tra me e te, Santiago 9, il mio segnale com'è sempre con 10 watt, va bene? Santiago 5, metti a attacca Marco, metti a 10 watt a vedere. No, 4 watt. Così sono attaccato, guarda Valerio, Così sono liscio, vedi un po' Valerio, mi sa che non arriverò più. Ora riprendo io e vi saluto, vi auguro buona cena e alle prossime. Ciao a tutti, ciao ciao. Guarda Vale, perché io non posso abbassare di più, se no non va. 5 watt di portante, 8 modulati, quasi 10, 5 watt di portante, quanto ti arrivo? No, non si muove da lì, non si muove. Oh, posizione, ne arrivi 9, a 2 arrivi 6, quindi. Va bene, rimettiamo com'era, se non scalda più sta cosa. Va bene, ciao Lugarie, buona serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Vai Natali. Ciao Luca, alle prossime, dai. Ciao Luca, dai, alle prossime. Beh, adesso lascio liscio, dai, visto che Valerio è arrivato là, a casa. Ne bogo tutto, da 5 watt sono adesso. Claudio, a te ha detto riprendere. Vedi, per Alghero è più libero, però proprio la zona Sorso Senno, in realtà quella zona lì di paesi, l'avrei voluta libera io. Capito? A me sarebbe piaciuto essere sulla costa, quasi. Porto Torres, cosa ne so? Vabbè, dai, vai Claudio. Sì, vabbè, ma non ti puoi lamentare, Marco, vai, ti difendi abbastanza bene, no? Non ce n'è problema, evidentemente la tua posizione va bene, capito? Va bene, ottimo per la truppa. Santiago 3 con 4 watt ad Alghero, usa lui. Va bene, io ho 5 watt, arrivo 5, quindi non è che cambia molto. Ok, vale, ci sentiamo da casa, allora, te andando a casa. Santiago 7 con picchi 8, staccato. Santiago 4. Sì, arrivi anche da liscio, dai, è buono, vai Claudio. Sì, vabbè, quello c'è un po' più alto, perché la zona mia deve essere la tua, però arriva bene, dai. Non ci stanno problemi. Ok. Allora, un attimino che... Aspetta, Allora. 40 watt, 20 watt e 30 watt. Ok. Allora, iniziamo a farlo salire, vabbè, si scalda bene. Ok. Avanti, Natalì. Dai, ma dimmi, qua, cos'è? Lo riprendi? Sto mangiando, là. Vi ascolto. Ehi, è doppio rumo oggi, niente? Piccolo! Guarda, ti ho pensato e sei comparso tu. In questo momento sono entrato in macchina, Ehi, brava Bobby, Leia. Ciao, ben entrato. Qua siamo sempre i soliti disperati, ma fedeli, fedelissimi. Io stavo a farvi da mangiare a te, sono a casa e poi devo riuscire. C'ho degli impegni, là. Impegni amorosi. Bene. Vai pure a Natalino per Gianni. Ciao Gianni. Natali, e beh, c'è tu nella radio che vai là. Oh yeah. Io cosa è la radio? Oh yeah. Sono anche basso. Va bene, sì. Adesso ho di lusso. Hai provato fuori? A sorso, arrivo bene, buccio d'ora. Già va bene, là. Non è una bella antenna quella, l'unica cosa è che è un po' più leggera dell'altra, ma come antenna già va bene. Non lo so se la piazzo io, magari dopo quella che ho vada bene perché lì perché c'è il tira un bel vento. Invece tu sei bello riparato, sei all'interno della città. Vabbè, là. Mi accontento. Mi si accontenta gode. Infatti, sono anche commosso già. Cosa? Che mi sono commosso adesso. Va. Perché ti ho detto chi si accontenta gode, chi gode si accontenta. E allora, c'è anche il cane che me ne vuole mangiare il pane. Vuole da mangiare, a te se poi devo uscire, dai. Sto andando a casa, ero fuori sino adesso. Giovane. Meglio il pane che il pene. Mortacci tua. Oh Gianni, mi, oggi è andata una signora da Natalino. Bello male la TV. Vero. Come senti, Gianni? Come hanno visto l'antenna che si passano la parola, stanno cominciando a vedere caso strano, a vedere male la TV. E quando c'avevo l'antennino li avrei dovuti disturbare di più. Eccomi qua, ciao Gianni, lo Roma, buonasera, ben ascoltato. Ciao Claudio, anche a te, va. Tu non gli hai detto di andare in affalcuca? No, non gli ha detto se si avvicina di cui un tiro di palla. No, bisogna dirgli semplicemente, signora, se vuole chiami l'Escopost che ha gli strumenti adatti per fare tutti i controlli, si paga 600 euro di intervento e controllano la mia stazione e il suo impianto. Allora la cosa che si arrende. Capito? Se si vuol pagare 600 euro di intervento li chiami e controlliamo tutto. Se non ce li ha, non li chiami. E poi ce n'è uno che è negro e arrafica, se è colpa sua. No, rido a pompa, Natalì, fai prima. Riprendo da casa che sono arrivato. Mi ascoltate bene stasera, cambio. Io ti ascolto benissimo. È naturale, no? Hola. Oh signore. Hola. Eccolo qua. Comunque Natalì, quella che Gianni gli hanno fatto passare, avevano fatto l'articolo sul giornale, avevano fatto volantinaggio contro di lui, capito? A lui gli hanno rotto le balle, c'erano quasi gli estremi di stalking. Già lo so, e cosa vuoi ti dica? Ma tu non mi dare importanza più di tanto, ma tanto più possibile. Quindi io sono in regola, guardi, ci guardi il televisore suo, sì. Magari c'hanno impianti di 30 anni fa, il cavo si secca, si spacca, la scatoletta lo stesso piglia acqua, A meno che non la fai proprio siliconata, proprio sigillata, piglia acqua. Infatti, mica io sono andato da un amico, non ne faceva più TV quando sono salito sul tetto, perché era l'antenna che era messa male. Allora, giubilato di la giacconza, non faceva neanche una striscia. Dove l'ha messa? A livello dell'antenna del televisore o più su? Ascolto, avrei dovuto disturbare tutto il quartiere, perché io ho addirittura l'antenna mia, e a fianco ai radiali, e ce ne sono altri, aprivi anche il palazzo dall'altra parte, avrei dovuto disturbare, capito? Sì, ma si fissa, l'ho capito, volte non usi l'apparecchio, anche a casa avviene quello di su, mi stai disturbando il telefono, sto telefonando e non riesco a telefonare perché mi stai disturbando, se non sto parlando al baracchino come faccio a disturbarlo? Venga che glielo faccio vedere, fate un mobile sarrato, tu dici che sono io. Oh già, a me sono andati a dirmi quando c'avevo l'antennino, no, che gli disturbavo internet e che il figlio non riusciva a giocare con i giochi di internet. Ne trovati colui. Se te li dai retta, lui. Ora? Si sente l'ecco, cambio? Già si sente. Ma lo sento girare però, non sento l'effetto di elicottero. Perché è leggero, molto leggero. Qua è il colmo, dire che stai disturbando internet è proprio il colmo, Cazzo, ti giuro, quello è un'amica di mia moglie, no? Guarda, ed è nel palazzo di fronte, è venuta e mi ha detto che gli il marito è venuto, e mi ha detto che gli stavo disturbando internet. E tu vai a rompimi le bali, guarda. Natalia, ma chi è quella che si è affacciata quando stavamo montando l'antenna? A quella lì gli disturbavo internet. E invece quella che ti ha detto di disturbare la TV chi è? Una che sta in fondo al vicolo, il padre, quella del padre disturbo. Capito, ma dice che ha cambiato l'antenna l'anno scorso, ma bisognava chi subirà ciambata, la posto di là in Musciaccara e la posto di Sant'Enevecchio, lì si di Poveccio. Comunque lì secondo me questo è molto piano scenuto. Assolutamente, se i zubbavi ti avevano negato il catuaiano e si iniziava ad attaccare l'antenna, perché si è attaccato proprio all'antenna TV, quindi non riesco a capire. Ascolta, il primo che avrei disturbato è a me, a Cesare, quello di sopra, il palazzo dall'altra parte avrei disturbato, a chi sono chi di antenne, e in più il palazzo di fronte avrei disturbato, i primi che avrei disturbato. Ma soprattutto a Cesare, perché c'è l'antenna attaccata lì alla tua, quindi vabbè, ma è una fissazione, Natalia. Non avere problemi. Ok, avanti Marco, riprendi. Dobbiamo aggiungere quella di internet alle fesserie, per quanto riguarda le antenne, che disturbi internet. Questa è nuova, è proprio da... Poi ricordati, Natalia, righe non ne fa. Col digitale terrestre, no? Non ne fa righe, o squadretta o sparisce le immagini. Quella può essere un disturbo, capito? Poi ci può essere anche una remota possibilità, che può disturbi, ma ci sono filtri buoni anche, non che si detta ci sono anche filtri buoni per bloccare l'armonica, Attimo là, vi saluto. Ho capito, c'ho già l'accordatore come filtro. Avete parlato in due. Ciao Gianni, sei arrivato a casa, sì? Sì, guarda adesso come è regolato Marco, va bene, cambi. Adesso è più marcato, ha voglia. Ma non disturba quando parlo? Vabbè, io sono pignolo, però no, non disturba. Ci sentiamo a casa allora. Certo, vabbè, sì, un po' bassa è, però in fondo al vicolo, ma pare strano. Sono tutte le cose che devono subire quelli che hanno l'antenna del baracchino. Si inventano qualsiasi cosa. Capito? o danno a qualsiasi problema la colpa a coso. Ui ui, Mimi, la biocco, sta arrivando, lo sento. Marco, poi una casa bassa, Emmy, l'antenna è un bel basso, come cazzo faccio a disturbarlo? Beh, è strano infatti, insomma, sono un'infinità di cose che manco lo sappiamo. Oh, che ore sono? Tornando, Sammy. Le 8:10, infatti adesso mi sto preparando per andare a portare il cane, dai. Ciao, Valerio, ripeti. Andate, adesso lui va a dormire, matto. Sta bene, la biocco. Vabbè, vai, vai a portare il cane, ci sentiamo dopo. Lei lascio tutto acceso qua, dai, ok? Ok, matto. Bene, sì, ormai il telegiornale me ne sono giocato, dai. O me lo guardo dall'inizio oppure niente. Non è successo nulla, però no, Trump, Corea del Nord, no. Io non ho seguito, quindi non so se è successo qualcosa. Anche io non ho guardato il telegiornale. Sì, no, ma te ne accorgeresti perché con la TV accesa compare TG edizione straordinaria, allora bisogna temere, capito? Che lo fanno al di fuori delle ore del telegiornale, vuol dire che sono scoppiati i casini, mamma mia! Infatti, e quello è l'occhio. Oh signor! Peccato che non si può fare, se no c'era da fargli scoppiare le bombe atomiche in patria. Al coreano, fagli scoppiare in patria, dentro i silos, capito? Sì, stia attento. Gli ho inserito anche l'accordatore per essere ancora più basso. Aspetta che sento brutto, aspetta. Ah no. Sono sempre questi studenti che parlano a voce alta nelle scale, sembra che ci sia brutto. Va, riprendete, là. Questo Gianni è sempre pieno di impegni, ragazzi. Non è più in trendy. Cazzo, c'ho questi disturbi, mi stanno ammazzando. È tipo un soffio, forte però. Benvenuto nel club. E purtroppo anche a me lo fa ogni tanto, in base a quello che accendono. Poi ricordati queste lampade strane a LED o risparmio, c'hanno la centralina che fa rumore, tutto disturba, ci sono gli alimentatori switching anche dei computer che potrebbero far rumore, ci sono un veri disturbi rispetto a 30 anni fa, perché 30 anni fa queste cose di adesso rumorose non c'erano. C'è la vicina che sta soffiando anche. Ma non sarà l'alimentatore switching che mi sta facendo questo rumore, no? Marco. È la vicina che sta soffiando. No, lo switching no, Natalie, casomai sentiresti un ronzio, ma se fruscio no. E tu metti lo squelch, no? Non starei mica con lo squelch aperto, io chiudo lo squelch e il tanto che basta silenziare rumore e vivo felice, ed è come essere in VHF, non siete ricorrenti. Poi chi arriva, pazienza, avanti, chi ha parlato? Marino, sei tu? Sono io, Marco, buonasera, ciao Natalino, ben sentito qui, arrivi abbastanza bene. Basta lì, sta vicino di fronte, sta soffiando, questi rumori strani sta facendo. Marino, come ti arrivo adesso? Sono arrivi 9:10 qua, 9:10, è abbastanza forte, Natalino. Ehi, anche tu stai arrivando bene qua, là. Però c'è un disturbo qua, eppure provo a allontanare l'alimentatore, che non sia l'alimentatore mi voce che c'è rumori. È la tua vicina che sta soffiando, ti sta facendo dispetto la tua vicina. Comunque l'alimentatore è nata lì, più lontano è meglio è. Io ce l'ho vicino, ce l'ho. Mi sa che lo metto in terra, lo metto. ho lo sposto più da qualche altra parte. Stata lì. Ehi. Ah, ti ricordi quando abitavo al monte, in via Prunasia, via Prunasia, che già avevo un'antenata. A me la mia vicina, stato là all'angolo, mi ha chiamato questo posto, no? È venuto, stato venuto, ha controllato quanto, a casa non è salito ancora. E io giù, ho controllato l'antenna della televisione, che aveva tutto il micratore, tutto marcio. E non ho capito niente, no? C'ho questo disturbo brutto. Ha visto matto, ha controllato l'antenna, c'era il micratore, tutto arrugginito. Sì, capita. Perché il miscelatore, bene o male, l'acqua entra, a meno che non lo fai a tenuta stagna, tutto siliconato, e forse l'acqua non entra, ma bisogna farlo bene, perché sennò l'acqua entra. E sai quante volte ho visto miscelatori pieni d'acqua, tipo vaschetta di pesci? Come avevo, va tutto sigillato. E senti, questa qui ha detto, lei mi sta disturbando, io non posso fare questo, e io la vedo, chiama, chi vuoi? Fai fare il controllo, se per non è pago, cosa vuol dire che io? In effetti, a chiamato è venuto, sappiamo che è venuto, era il polistrada, ha sollevato, è salito una che era sua, sul testo, ha controllato i miei strumenti, ha aperto il miscelatore, c'era tutto il miscelatore marcio. Tutto un classico era. E gli hanno detto, sì, la prima volta facciamo fare una bella chiamata, lei non è che immagini, non è chiamare, si mette lì in pianto, poi dopo può anche chiamare. Che soddisfazione, ah! E stavo che ciò, affianco a me come confinante, in fondo c'è il cognato che è molto ignorante, capito? Il cognato è ignorante peggio di questa qua, e per un momento passa davanti, mi guarda in terra ma non dice nulla. Perché di fronte a me abitava uno di Torino che era parente a un amico che si è morto, la giornatore, la Terocce, e veniva in Sappia e trasmetteva tra cugino e cugino, lì diciamo, non so se tu hai conosciuto Gavino Pazzo o dalla Gravia. E diceva che lui turbava a lui, invece era tutta la gente a frase, a Mattessi. Io le chiamo i carabinieri, chiamo questo, io faccio la testa, la televisione, e io ho detto no, i signori sta parlando la concessione, sta quello che mi piace. Lei si controlla il suo quadro di impianto, dopo può fare quello che vuole. Adesso davanti a me passa, non mi dice nulla. Sì, sì, che partono in quarta, capito? Partono in quarta perché sono talmente ignoranti che non pensano che ci possa essere una causa da parte loro, che ci sia motivo anche da parte nel loro impianto, capito? Partono in quarta, capito? Tutto per carità, guarda. La solita gente ignorante, scusa, io adesso sto parlando, e se disturbavo il mio confinante, che sono abbastanza in gamba, me l'avrebbero detto, non mi ha detto nulla, fino a stasera mi ha salutato, negativo, non vuol dire che è un disturbo, però lui passa avanti, guarda, è tutto per attaccarsi, tutto per avere problemi, capito? È passato anche poc'anzi, era fermo e stava guardando, e guarda che non si dice la luce, ma i denti, avanti, resta lì. Aspetta, sto spostando l'alimentatore. Forse quel rumore, il disturbo forse sia l'alimentatore, che l'alimentatore fischia, sta cosa che non è problema, avanti un altro, e Claudio è andato qua così a portare il cane fuori, sono un attimo avanti un altro. Eia. Sì, Natalì, non lo mettere a chilometri, basta che lo allontani di un metro almeno, tutto lì. L'importante è che non sia attaccato alla radio, che potrebbe dare così, ma non è nemmeno probabile. Ok. Valerio, ci sei ancora? Valerio, ci sei ancora? Sì, ci sono, però c'ho molto QRM e poco vi sento. Eia, anche tu. Beh, inteso a Natalì, Valerio ha molto QRM, capito? Quindi non è solo a te, anche a lui. Capita, ogni tanto capita a me. Non ascolti? Valerio? No, purtroppo c'ha QRM e sente male anche me sicuramente. Non ti ascoltano. E tu dove state, Natalì? Valerio è Alghero, Già lo senti tu o no? Sì. Ah, buono. Nattaria. Beh, Nattarino prima era abituato all'antenna piccola, ricordati, antenna grande, disturbi grandi, c'è poco da fare. Poi ci sono baracchini più o meno sensibili che possono prendere più o meno disturbi, è chiaro. Tutta la mondezza, sicuramente, tutta la mondezza, ma io ho voce QRM, c'è QRM, vediamo se non stai terminato, l'angelo è lì, che è ancora tutto. Bene, Claudio se ne è tratto, anche con Pippo, avanti Marco. Feia, siamo solo noi. A me, allora, lo switching a me non mi ha mai dato problemi, guarda, ce l'ho qua sotto, a distanza di 30 centimetri, 40 dagli apparecchi, diciamo che adesso, vabbè, adesso è spento, lo uso solo per la scarpetta, no, capisci a me, per il linearetto. Per il resto uso un alimentatore lamellare, però quando l'ho messo anche in HF lo switching non mi ha mai dato problemi, non dà nessun rumore, non fa ronzini, non fa nulla. Ma poi se io ho un alimentatore minimo, ce l'ho 40 anni, io 40 anni sto modulando, vabbè, dopo ho smesso e l'ho svelato, sono 12 anni quando ho modulato, c'ho un alimentatore vecchio proprio, era che ce l'ho già spento, sono dovuto anche a marcia, ho più di 40 anni, non avevo mai problemi, è resistenzioso, fino a quando va, se no dopo ce lo cambiamo. E ripeti, va sempre almeno, là c'è staccato in un metro, là, l'apparecchiatura, e già va bene, dai. Certo, sono certi alimentatori, sono stabilizzati in cui ce l'hai problemi, fischia, senti, ti fa entrare un po' di lunghezza dentro l'apparecchio, avanti. Stavo pensando, aspetta un attimo, vediamo se c'è Claudio, sei ritratto, sei andato a portare il cane? Nulla, ancora no. Natalino, hai fatto? Intanto vivo a spostare uno switching. Vivo. Il tempo suo. Ma come Antonello, non l'hai sentito, no? Col pugno. Mi stavo pensando a lui proprio, a me, è quello che volevo dire. Pomponio, ci sei almeno all'ascolto? Sai cos'è? Che purtroppo il fratello che era in un istituto, il fratello è allettato e non può stare manco camminare, è a letto il fratello. E adesso ce l'hanno a casa e deve stare tutto il giorno a accudirlo. E poi di notte ci pensa la sorella, capito? C'è una persona appunto invalida, diciamo, dai, perché ormai è invalido. No, so tutto Marco, so tutto già, quanto meno ci conosciamo anni, già so tutto, come va detto, poi da casa, poi quanto meno ci conosciamo parecchi anni, dunque già abbiamo già parlato, lo so, purtroppo chi c'è in casa bisogna stare attenti, poi adesso bisogna, poi sapere, poi quando faccio lo schermo anche altre cose non può prendere. Deve calmare, sono guai. Poi sta diventando un po' prepotente il fratello, oltre che è a letto, che non si può muovere, voleva la birra e le sigarette, capito? Siccome Pomponio non gliela voleva prendere, gli ha tirato in pari un bicchiere, capito? Ogni tanto si gira, oppure dice se non mi compri le sigarette non mangio, capito? Lui si deve scordare sigarette e coso e alcolici, li fanno male, in quelle condizioni li fanno male, basta, finita la pacchia. Non basta dopo quello che ha fatto, già basta, io penso che basta, anzi, l'ha rovinato quella roba che vuole, figurati, e vuole ancora, insomma, se vuole campare qualche giorno in più, meglio non prende nulla, deve mangiare, basta, ormai. Se non sbaglio se legge nei sentieri, figurati, Giulia, dopo Antonello. Antonello è stato molto sfortunato perché prima è stato il padre a dover essere accudito, poi gli è toccata la madre con quella malattia lì, l'Alzheimer, è stato tanti anni a accudirla e ne ha passati tutti i colori, aveva pure uno fratello, ha detto, ieri l'ha detto, dice tre dell'Ave Maria, ha detto. Io ho sentito, ascolto, sta facendo cosa, ho sentito, ogni tanto vuole prendere un problema, ho dato fuori e farò sparare, sono guai, sono scoppiati lui. E purtroppo sai quando non ci sono molti soldi. Purtroppo la persona non la puoi lasciare in un istituto a pagamento, perché si prendono un bel di soldi quelli, poi chissà come li trattano, perché non sai che in certi posti li picchiano, li trattano male anche, non sai mai come li trattano, capito? E se ne vede ogni, tutti i giorni se ne vede in televisione di gente che maltratta anziani nelle case di accoglienza, che maltratta anche i suoi bambini all'asilo, capito? Non sai mai a chi lo dai il malato, non si sa mai. Perché gente non c'ha pazienza, vuole solo, hai capito? Le lasciano la camera, le lascia fare tutto come vuole, magari le lascia anche stufi, le lascio, e non se ne sbattono, però a incassare e basta. E piace incassare un po' di soldi e boh, ci vuole più, una finanziaria ci vuole la mansione loro, per pagare questi centri qua. Oh, Giulio, un attimo. Brecche? Avanti Brecche. Ciao Franco, ciao a tutti. Ciao Franco, bello, bello forte forte, dove ti trovi? Paramobile, saluto a Marino, Marino l'ascolto appena appena, Natalino, lo sappiamo. C'è qualcun altro? Allora Claudio è latitante, c'è Natalino e boh, gli altri hanno già chiuso, chi è andato a mangiare? C'è anche Valerio D'Alghero, ma quel rem è alto, quasi non ci sente. Sono entrato io, eccomi qua. Ciao Cla. Ciao Cla, buonasera, ben sentito. Lo porto il cane. Sono entrato adesso. Se c'è un freddo fuori, minchia. Anche qua, io ancora ne ho una tavoletta e poi finisco. Ho messo l'antenna sul portaruota del fuoristrada. Non c'era massa, gliel'ho portata con una treccia in rame. Va bene uguale? Sì, va bene. Sì, 9,5 abbondante qua. Per essere dalla macchina stai andando più che bene. E rimane, diciamo, quasi un metro più bassa del piano del tetto della macchina, ma non la posso montare su e già sono a rischio di toccare tipo la piazzetta, là. No, va bene, alla grande, lasciala così che va benissimo, ok. Avanti Marco, fai girare. Sì. L'altra volta su un forum ho fatto vedere che ho riportato la massa anch'io, come ho potuto. Il radiatore, sia un radiatore uscito male, male, la massa riportata non è una massa vera, va male, la massa non bisogna farla lontana dal punto di nesto dell'antenna sulla carrozzeria. Invece gli americani l'hanno sempre fatto, si pigliano treccioni in rame e portano la massa al bullone più vicino della macchina e non cambia nulla alla fine. Praticamente ho fatto così, non è molto lontano, saranno un 20 cm di treccio, gli ho messo, perché l'antenna è sulla plastica, è attaccata sul portaruota che è in plastica, quindi è isolato. Eia, no, io molto più lungo, io avevo preso un volgare cavetto di rame e avevo portato questa massa al bullone più vicino, che sarà stato un metro circa. Però la massa poi era effettiva, almeno avevo la massa vera e propria di questa antenna HF, un'antenna HF, quindi aveva necessità della massa. Ma certi radiatori, no, la massa riportata non va bene, a fottidilli, già va bene, già funziona. Ma vediamo se mi ascolta Marino, Marino mi ascolti? Franco ti ascolto, va bene, sono Santiago 9, va deciso perfetto, io mi approfitto per fare quelle ritiche, mi metto nel saccano, ciao Franco, vicino, ciao Marco, ciao Salino, c'è anche Claudio che appena entrato, io chiudo e c'è il posto da mezz'ora mi sta chiamando, bene, Claudio le prende, quelle di famiglia è il posto, dai. Ciao Marino, un saluto, grazie per essere entrato a salutarci, quando vuoi siamo qua, un piacere ascoltarti. Avanti Natalini. Ciao Marie, alle prossime, grazie di essere entrato. Natalini, saluta la vicina. Ti devo salutare. La vicina, quella che ti sta rompendo le scatole, ciao. La vicina, detto quella che ti sta rompendo le scatole. Ma io non lo so, quella di Natalini che fosse sopra a tutti. Che problema c'è adesso? Sì, dice che c'è quel rem, ma anche Marino ha quel rem alto, che vuol dire? In città è pieno di disturbi, anche dalla propria rete elettrica ci possono essere vari disturbi, creati da tutte le cose elettriche che abbiamo in casa. Non mi ha deve mettere adesso. A Parigi, ho corremmo a Santiago sì, io con la Corsi 80. E questo maledetto vento, hai capito? È il vento che a corremmo, non ti preoccupare, già è tutto a posto. Ma fa un rumore, fa un rumore. Rumore di che cosa? Ma si è uscito fuori, se c'è l'antenna, sì. In maniera, se c'è, non sarei uscito. Che rumore, da dove proviene? Attenzione, cosa c'hai? Caricando qualche telefonino, carica batteria attaccato, e lì è tutto ammucchiato, capito? È tutto vicino, il posto è quello, Natali, quindi qualche rumore ce l'hai. Ricordati, antenna grande, rumore grande. Natali, non puoi pretendere di essere esente da rumori, no? Poi adesso ci sono molte cose che 30 anni fa non esistevano, che sono molto rumorose. Oh, Claudio, sai che ve l'ho fatto vedere un video su YouTube? Un video su YouTube. Praticamente c'era un centro di astronomia, no? Di radioastronomia italiano, e sentiva questo disturbo che disturbava la banda di ascolto l'ora, proprio un bel picco, E c'era il furgone delle scoposte che è andato alla ricerca del disturbo, era a chilometri e chilometri, tipo 20 o 30 chilometri di distanza questo disturbo. E cosa era? Mi pare era un alimentatore switching di cosa era? Di una TV, di una cosa, di una fesseria. Immaginati, 30 chilometri per cercare questo disturbo. Chiamiamo una cosa ventosa. Ehi, no, lì c'è andato proprio il ministero, proprio là, il furgone alle scoposte, con tanto di antenna col palo elettrico che si alzava e cercava il disturbo. Tu immaginati, una cosetta così piccola che mandava un picco di disturbo a 30 km di distanza. Bello quel video, Se lo cerco te lo mando. Gappa, gappa. No, se lo cerco, se lo trovo te lo mando. Mandamelo, mandamelo, perché così me lo controllo. Avanti, Franco. Beh, sto aspettando che passi il trenino, dai. Querix, un attimino. Devi venire dal Ghero. Domani mattina? Sì, sto aspettando che arrivi mia figlia, perché c'è la macchina disponibile. Se no salgo con l'altra. Porto il cane e poi parto. Verso le 10:30 sarò lì. Vabbè, come lo sapete allora, Io, in ogni caso, vengo con l'altra piccolina, ma per fare più fretta volevo l'altra macchina grande, capite? Adesso vediamo quando rientra mia figlia, o poi se è già uscita, e poi mando un messaggio a Giuseppe, ma comunque in linea di massima è confermato, 10:30 sarò ad Alghero. Va bene, dai, va bene, va bene, tu cosa mi mandi un messaggio, sì, vengo e vediamo, va bene così. Va bene, dai, io faccio quelle tipi, a Natalino non lo sento più, c'ho QRM, Santiago, sì, scherzo, buonanotte, adesso inizia il QRM, inizia la propagazione, noi andiamo bene. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo domani, dai, ok, tu prendi Claudio. Io ho con M8 qua, nel C80, nel 440 un po' meno, è un po' più filtrato, C80 e 140 sono così, capito? Sono così, capito? Con M non finire, vabbè, pazienza, ce lo teniamo. Vabbè, a tutti i bimbi, ci sentiamo, avanti Marco. Sì, sì, almeno dico 30 anni fa, almeno quando c'era QRM era proprio vera e propria propagazione, adesso è QRM elettrico, il phon spesso, rumori tipo phon, non mi ricordo, motori elettrici, quelli sono più lonfi. Raga, però io sto perdendo colpi, dai, sono dalle 5:15, 5:30 in radio, no, dalle 6, dai. Sono un po' stanchino, io quasi quasi andrei, saluterei tutti, dai. Mi corico, mi guardo l'antenna. Sì, mi guardo. Mi guardo la televisione. A momenti vado, dai, mi sdraio e mi guardo la televisione. Ieri mi sono perso quel film, porca miseria, Gran Torino con Clint Eastwood, quello è bello. Tanto c'è Gabo Fargo. Non lo rispetto, non lo guardo, lo stavo seguendo. Cosa c'è stanotte? Onore e rispetto, un film di mafia con Gabriele Garco, come si chiama? Ah, qui su Vroscio. Bello, ma mi sa che l'orecchio pende. Anche per il garco. Anche quelli della zona di 105 l'hanno sentito in certe conversazioni con l'amichetto. Ciao Massimiliano, ciao alla piccola anche. Abbiamo parlato in due. Cosa stai facendo? Dove vai, Babbo? In bagno. Io raso con... uso di rasora. E cosa ti ho detto sempre, Babbo? Devo toccare il baracchino quando non c'è lui. No, ma che me l'ha permesso. Quando ero in bagno mi ha detto che lo potevo usare. Capito, Claudio? Gaffa, gaffa. Va bene, va bene. Eia, eia. Bene, signori, dai. Ci sentiamo domani. Ciao Claudio. Ciao. Come si chiama? Cosa? Ehi, ciao Natalino, Claudio. Gaia, così si chiama, sì. Ciao. Saluta mio babbo. Ciao tutti, Franco, Valerio, tutti, dai, sono stanco, chiudo, ci sentiamo domani, ciao. Va bene, ti saluto a babbo. Niente. Ti mando un grande bacione, ciao. Ciao, grazie, salutalo, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, passo e chiudo. Ciao Marcoli, dai, ci sentiamo, ci aggiorniamo, stiamo bene, buona serata, buon tutto, alle prossimine. Chi ci è rimasto qua? Gaia Radio, vero? No? Ehi, gappa. Se una scienza, ecco. Beh, non fate nulla di male, non sono fatta a me, sono fatta a Marco, tranquillo, ha detto che eri in bagno. Sono una scena. Allora, se li lasciola, ho capito, adesso non può parlare più a bambina, basta, e sa. Gappa, se andrà bene, vera. Chi c'era, perché? Tu, Marco è andato via, Franco non so la sta facendo, Valerio c'è un sacco di QDM, Natalino c'ha un rumore strano che non capisce dove arriva, meno Gagemmo, va bene, ok, io sto andando con lo 68, 30 watt modulati 50, al vento la gente è funziona due volte, è ancora scoperchiata però. Sì, no, sta andando bene, la voglia. Vabbè, adesso la teniamo sotto controllo, ricordo di portare il microfono che voglio verificare le ultime cose e poi vieni a trovare quindi. Andà bene, vera. Ok, tanto vabbè, saluta Marco, non so se è ancora in radio. E anche io. So che appena sdocciato e adesso ci sentiamo a mangiare la pappa. Ehi, adesso ho portato il cane, ho fatto tutto, adesso ancora non mi ha chiamato, no, sicuramente aspettiamo l'aria che ci vado a mezzo e niente, e comunque siamo qua. Allora dai, tutta la notte attesa a volume zero e così vediamo un po' domani mattina quando mi alzo se è attaccato qualcosa o se è rimasto a tale quale, dopodiché prove sono fatte, capito? Va bene, è completamente cotta la resistenza, siamo andati anche troppo bene, pensavo fosse partito per noi, stato invece il motorino, invece siamo stati fortunati, dai. Bella mossa, allora va bene, voglia. Adesso vediamo un po', lasciandola così, se togli altri difetti. E se togli altri difetti ti imbacchiamo. E infatti. E lo stai lì a tempo. Si va via, però più lontano possibile. Bianconi. Faccio mettere Neroni, non Bianconi. All'imballo ti la mando una fanculta, guarda. Ehi, ciao Massimiliano, ciao, stavo chiudendo che sono. Sono tutta la sera in radio e adesso mi guardo la TV. Ciao a tutti di nuovo, ciao. Ciao Marco, va. Buona continuazione in serata. E anche io sono stanco morto. Adesso mi metto un po' a mangiare e poi vado un po' in TV e poi me ne vado a dormire. Andà bene. Dunque, lascio un po' acceso, vi ascolto se ci siete ancora. Così e poi già ci aggiorniamo, va? Ok, saluto a tutti. Ciao di nuovo a Marco, a tutti quelli che ci hanno ascolto. Cappa, va bene, non problem, noi ricordati, lascio un attimo, faccio un salto al vero, va? D'accordo, da Giuseppe, così le collego con la roba, poi me ne scendo in fretta perché c'è anche gente a pranzo. E io oggi ho fatto, diciamo, quasi tutta una tirata. Sono partito a mezzogiorno e mezzo da Marinetta, sono andato a De Paulini a Pedania da ritirarmi la macchina, in carrozzeria, e poi abbiamo pranzato col collega, quello che mi ha chiamato l'altro giorno, io avevo Spitty Gay. Abbiamo mangiato una cosa veloce, poi siamo rientrati a Marinetta, praticamente ho lasciato lui e poi sono ripartito. E quindi è arrivato tutto anche là, dopo mi sono seduto qua, stiamo a questa cosa, insomma, anch'io sono un po' stanchino. Va bene, sto facendo il passaggio lungo per vedere se tutto procede bene. Ecco la ventola in funzione. Sento l'aria, ma non si sente la ventola che senti, se la senti è quella dell'alimentatore, quello grande. Va bene, d'accordo Massimo, già ti lascio, buona cena, buon tutto, saluto mia Daniela e dai un bacio alla bambina. Ci aggiorniamo domani. Ciao. Andà bene, ciao, la bella radio, ciao però. Va bene, ok, ciao. Sì, l'ho dato una ritoccatina perché non mi piaceva, mi ascoltavo un po' gracchiante, capito? L'ho dato appena un ritocchino, appena. Poi ho controllato Massimo Giacomo, questo lo smitter ed è perfetto col 440, la ricezione è perfetta, i segnali sono uguali al 440 che è stato tarato appunto da Bianconi, quindi è abbastanza affidabile. Il QRM purtroppo è molto più alto rispetto al 440, ma anche Valerio si lamenta spesso al 140, purtroppo sono così, non sono molto selettive con il QRM, quindi noi possiamo fare altre registrazioni. Per il resto ti ho mandato la foto di come all'interno questa radio è più che perfetta. Sì, ho visto. Ho visto che è bella lucida. Andà bene, va? Va bene, buona continuazione allora, va. Mi sembra che è tanto Gianni, lo saluto e ti lascio con lui, Claudia, va. Ciao Gianni, riprendi tu e ci sentiamo. Ciao Massimo Vida, sono a Taiso perché stavo facendo da mangiare a Taiso. Gli ho detto che entravo, ma sono entrato adesso perché stavo facendo da mangiare a lui. Dai, ci sentiamo alle prossimine, avanti. D'accordo, ciao di nuovo Massimo Vida. No, mio, ho già mangiato, mi stava bevendo. Non gli stava ponendo il muso, sennò fa le goccioline, come tutti, anche il tuo. E niente, già portato, tutto fatto. Adesso fra un po' si cena, poi ci vorrà un po' di TV, ma sono a riposo, devo lavorare domenica. E quindi niente. Va bene, è tutto a posto già. Sì, tutto a posto. Adesso devo uscire fra poco. Devo uscire con un'amica. Andare. E poi niente. Va bene, ok. Va bene, no, io mi stavo chiamando la radio Giuseppe, che si è bruciato la resistenza del termostato, non andava in funzione la ventola, cambiato e si è posto, la tana pulitina, non l'ho verificata, la sto usando. Eccola qua, la ventola lì. Si sente in funzione, perfetta. Mandami la foto almeno, no? Ma Giuseppe Gianni? E io? Tutta la Ferrari, ma te che dice Ferrari, lui sembra un baracchino normale. Che cosa? Questa radio, tutta la Ferrari c'è con te. E com'è queste viaggiano? Cosa vuoi Marco? La foto che della vetta? Adesso te la mando, come l'ho tenuta aperta. Allora tutte le foto, vediamo. Eccola qua, una. E perché la sto inviando Massimiliano, però adesso te la mando. E di dell'apparecchio aperto, che non l'ho mai visto. Se puoi, Sì, è strano, dipende già. Per andare via io adesso. Vabbè, dopo me lo conquato devi uscire. Questo me lo conquato, 9:20. Poi ci rientra a tappi. Confessa. E si mette a parlare con il radio. E ancora non è ora del film, dai, sto andando e venendo al baracchino. Oh, yeah. Non vedo l'ora di uscire di casa con questa storia, mamma mia. Domani spero di uscire. A parte che ci serve acqua e siamo senza acqua da bere. Io domani sono una cena. Quindi, sto tranquillo. Cena calante. Com'è andata lì? Già nel caldo non scherzo. Senti. Chi è che sta godendo? Quando mi fa il richiamo, già non sai la roba. In che situazione mi hai messo? È duro, è scappellato. Bravo Marco, c'è gente ascoltando. Non ho detto parolacce, ho detto solo è duro e scappellato, no? Vabbè, contieniti però. La bambina di Massimiliano ascolta. Ascolta padre Claudio. Non mi girate che Masisi, per favore. Grandissime connudi. Non ti presento la Garganella. Non mi credi niente, no? Non guardi mai Montalbano, già. Non hai mai visto la puntata che c'è di Antonio con la bella questura. No. Mi consentisce, dottore Montalbano, mi consentisce, dice. C'è il computer che mi dice pass. Io passo ma non mi fa passare. Quindi cosa devo fare? Di due donne di fronte al tribunale, io visto. Cosa? Che hanno visto due donne di fronte al tribunale, due donne insieme. Era che stava la traversata, non ce n'è strisce pedonali. Allora qua dice Tobia Mazzini e. Aspetta. Sto guardando su internet. No, l'ho visto. Non l'ho visto. Senti al vento, la Marconi Ocon. Lo senti il motorino, perché è ancora scoperchiata, capito? Quindi già tutta un'altra cosa con me questa radio. Sì, sembra di dubbio. Qui sembra con un baracchino, scuola fatta, non sembra nemmeno la radio quella. Sì, qua dice che praticamente è tra via Mazzini e via Roma, che è successo. Ripresi del tribunale. Poi hanno riportato diverse ferite. Contusioni, ferite, eccetera, eccetera. È strano perché via Roma non è che camminano molto. Molto strano. No, vabbè. Sta succedendo un po' troppo spesso, ho preso l'apparato, è pieno di componenti, non l'ho mai visto. Bello, guarda quante luci, è grandissimo. L'ho lavato tutto con la trierina, cambiato la resistenza, ho lubrificato la ventolina, la polarizzazione orizzontale dentro quel contenitore, con la mela, con la gira, c'è il motorino sopra, si ingrandisce. Tutto lavato a trierino, nuova. Oh, l'avete vedetta la nuova di oggi o stasera? Sì, c'è anche l'investimento delle donne. Tore Usai, che era un tossico perso che io conoscevo di vista, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'omicidio di Bonaria Sanna, che mi pare fosse la zia, capito? L'ha ammazzata e ne aveva preso i soldi e l'hanno beccato subito. C'è anche la foto, mi sulla nuova, sul sito. La roba che c'è sarà poco da No, è successo un tempo fa, però l'hanno condannato adesso, 14 anni. Lì mi sono conosciuto un randaggio, un tossico, era un tossicomane. Sono quelli lì che non guardano le faccia né appariti né nessuno, Io mi ricordo che avevo, che conoscevo uno che praticamente è diventato tossico dopo che ha frequentato il sacro cuore, quindi è diventato tossico. E questo qua aveva il padre che era una persona autoloccata. Quando lo invitava alla leggera si portava il figlio, caso il figlio chiedeva di andare in bagno, lui papà i cassetti delle case dove lo invitava, erano sgamato perché il padre era della questura, quindi immaginate chi lo invitava. Aspetta, un'altra notizia. Allora, Sassari, la spazzatrice stradale perde olio e imbratta mezzo centro storico. Per carità. E quando mai non se ne accorgo? Sarà peggio di quello che quando c'era la Sisa ha avuto questo autotrenista e praticamente aveva la pedana idraulica. Stava perdendo olio di quell'olio idraulico, cavolo, e ha fatto una chiata proprio davanti al magazzino. Io sono entrato in moto, cazzo, è uscito Giuseppe, mio collega, no, come ha detto così, fuso, frampato, perché ha tutta la moto contro lo specchietto. E gli hanno mandato, dalla sera gli avevano mandato il coso, un investigatore privato, ha fatto tutte le indagini, ha visto che è passato, dove non era l'itinerario giusto, ha toccato la pietra, è passato la strada di campagna, ha toccato la pietra e ha spaccato la coppa dell'olio idraulico e ha perso tutta la strada. Per poco cazzo non gli fanno la denuncia, se non gli fatto i vigili urbani, stavano cercando se ero io, capito, con il furgone, poi c'era la... A proposito del polo idraulico, ne ha tolto anche l'antenna, Pinangelo. Perché? Non lo so, sono passato l'altro giorno, Massimiliano, da Larghero, e ne ha tolto l'antenna. Era stato fatto, perché non andava bene, nessuno l'aiutava e l'aveva cavata. Non l'aiutava, ha cambiato il numero di telefono e non si può ritracciare più. Sono a Targhero al circolo e non c'è più lì. Cosa devo fare io? Che lo so, non c'è mai. Io gli ho detto di farmi un colpo di telefono quando era comodo, che salivamo. In due o tre l'avremmo messo a posto. Nella lampada a vento o nella buttata lui. Il problema è che c'ha il 440 e il 140, capito? Quindi mi dispiace che vadano male le radio, perché è una nuova nuova con la radio. Se riesco a mettermi in contatto voglio capire cosa ha deciso. Se l'antenna la deve comprare nuova, se la vuole piazzare o se non vuole più trasmettere. Se non vuole più trasmettere le porto via tutto. Chi è? Cavo idraulico. No, non so di chi. Vabbè, forse io non lo sentivo, Eia. Ho capito. Ma tanto non stavi ancora entrato quel periodo che entrava lui, capito? Una volta siamo andati a casa sua, a invitarlo a mangiare la pizza, siamo andati io, Natalino, mi pare che c'era e coso. E Luca Malincomio. No, non ci vengo a mangiare la pizza, restate voi qua. Ah, vai, non devo disturbare. Tanto mia moglie è sua, no? Si sta guardando il televisore, noi ci abbiamo una cena e noi. Prende tutto il pane, cazzo, dal freezer, cazzo, prende il coso, lo lascio da capelli, cazzo, si mette a scorgere il pane, lo lascio da capelli, attacca il barrerino, non ve lo guardo più io. Vedi la Luca, se lo sei pisciato. Oh, investite sulle strisce, c'è la foto, proprio via Masini, sì, investite sulle strisce. La gente guidando non sta attenta. Sì, ma sta distrazione, Marco, questa è la distrazione, dai. Non possiamo giudicare, tante volte sei distratto, vai a prendere una cosa che ti cade, come ti apri, è successo a me una volta, col baracchino. Se l'ho andato a abbassare il baracchino che era troppo alto, e cazzo, questa macchina ha frenato in colpo, mi sono fottata. Sì, ma allora non è via Roma, via Mazzini già ci sono le strisce, via Roma no? C'è scritto tra Roma e via Mazzini. Qua c'è la foto, Claudio, c'è la foto. Ho capito, già abitavo una isola. Oi, qua è tu. Vabbè, non è che hanno avuto le ferite, mi sa, però sempre sono intervenuti i vigili, eccetera, adesso sono stati casini. E quando invece una persona sulle strisce polari c'è sempre un casino, sì. Capito? è sempre un casino, non so. Vabbè, speriamo che non sia successo niente di grave, eh. Siamo gli occhi. Io come sento sta fretta andare. Che goduria, mamma mia. Va bene, va bene. Ora, ora, c'è il picchino l'attimo allucinante, sta radio, va bene. E lui avrà qualche casino perché ne ha vestito due insieme di persone. Infatti, ogni sfiga che per me è una, no, una pigiata. Ha fatto strike. Allora, ha fatto strike, sì. Ha fatto. Gianni, guarda che se capita qualcuno sta dando quello M500, intanto io non... Non ho tempo né per fare la connessione né per usarlo, non mi frega niente, capito? Se sento qualcuno che non vuole, non c'è problema. Io sono a completo di tutto per il momento, poi si vedrà. Se senti qualcuno, fammelo sapere. Che cosa? M500. Ah, quello ieri, eia. Poi altre notizie di Sassari, in via Gorizia 5 auto con le gomme tagliate, capito? Siccome i ragazzini adesso si annoiano, fanno in giro col coltello e bucano le gomme delle macchine, capito? Ma non beccarli, mi. Cazzo, mai che vadano in corso Trinità a bucare quelle in Natalino, che non ci ribucca un gabbo. Ah, tappa lì, attento mi che ti bucano le gomme. Con un fusile a pompa, dai, così gonfia anche le gomme. No, ma che... Intanto ci passerà a ragionare al torto per lui. Comunque già li becca la macchina, come hanno beccato quelli di Ciutti che spaccavano davanti e dietro i vetri delle macchine, avevano fatto tutta via Baldetta una volta. Pieni di macchine, tutti con i vetri davanti e dietro, tutti spaccati. E quei ciottoli di mano usavano, li ha visti un poliziotto che era affacciato alla finestra, ha chiamato la pattuglia, ha preso il numero di targa, ha chiamato la pattuglia, Zani Bizzani Bimani, e quando abbiamo trovato questi ciottoli hanno detto che li servivano perché doveva andare in campeggio e servivano per bloccare la tenda attorno. E non è andata però, capito? Non è andata perché i ciottoli che hanno trovato all'interno della macchina che avevano spaccato i vetri erano quei ciottoli che stavano usando loro. E adesso dovrebbero beccare quelli che incendiano le macchine già, capito? Perché caspita, stanno bruciando belle macchine e non ci credo io che sia racket o vendette, quella gente che si annoia, poi quello che te lo dicono candidamente, ci annoiavamo e quindi, capito, bruciavano le macchine. Ma secondo me molta gente che lo fa per vendetta, magari non ha la vola e così, è arrabbiata con il mondo. Sono stati motivi, oppure anche roba di vandalismo, di delinquenza proprio. Qui bisognerebbe fare come fanno Alberone, questi spuri, ci sono le guardie, le ronde che passano, di notte, di giorno, le ronde con i manganelli in mano, per vedere che si cose qui non la giusta. Oh, mi correggo, non è M300, non è M500. Mi pareva strano. Vabbè, mi sono confuso nel confondermi. Ti sei sconfusionato, dai. Sei stato un guabucci, mamma mia, non ho posato niente, ho fatto un po' di... Quindi tutta una tirata, poi mi sono seduto qua, stiamo a questa radio, ho finito poco fa, adesso vado a cenare, così domani, vado all'Alghero, a Giuseppe, e poi me ne rientro. Ma a te che vai all'Alghero? Vuoi venire? Beh no, dovrei uscire più che altro a fare la una piccola spesa, perché siamo già anche senza acqua da bere. L'ultima l'ho presa stasera, domani andiamo da Lidl e pigliamo due fesserie, dai. Ci vuoi venire a 10:30, faccio un salto, io stiamo a sta radio, e poi mi riposo, non mi rompete più, chiamo Gigi perché non faccio più niente a nessuno, Giuseppe scherzando. Se non si arriva il poverino, domani c'è una ghiera, prepara il caffè, sistemo tutto e poi basta, lasciami a riposo. Ha provato il suo corso di rafting in Valdosta? Beh, un momento, non è il mio corso di rafting. Ma la sentite questa propagazioncina bassa? No, non la sentite? cosa? Sì, ma allora sì. Sta propagazione, cioè, ci sono dei piccoli segnali tutti uno sopra l'altro. E ci occorre me a 7-8 io qua, figurati. Però già credo, no, ma me ne sono accorto dalla KF che è salita un po' la propagazione. Va bene, va bene. Ok, dai, io ne approfitto, sono 9:05, vi saluto, grazie alla compagnia, grazie di tutto, le prove, gentilissimi come sempre, saluto tutti quelli che sono in ascolto. Ci sentiamo domani, dai, tengo tutto acceso però qua, che questa radio voglio ancora tenerla sotto controllo fino a tardi, dopo la chiudo. Va bene, ciao a tutti, QRT per me, alle prossime, ciao. Ciao Claudio. Guarda, lì, sentito lei a Marco cosa ha detto, che stanno bucando le gomme col coltello, ho detto di andare in corso Trinità, così di buchi un capo tu. Ma faccio pure un mare peggio, ragazzi, con chi si verrà proprio bene un capo. Ah, te lo va con chi con chi si appompa, amico. Che bella che qua. Micidiale veramente. Bella roba c'è Marco, L'ho vista, minchia che bella. Io? No, io lo so, le ho viste, la roba che c'è Natalino, che già mai capito che cosa, bellissime. Sì, sì, l'ho vista anch'io. A me piace la Glock comunque. Quella sì. Anche qua la faccio voi la mia Natalino. Però la mia è una. Non posso a quella capita. Quella è una 17-21. L'ultimo modello. Deia. E c'è anche lo scatto alleggerito, quindi è ancora più sensibile il grilletto. Ti dirò, a me non piaceva il tipo di scatto della Glock, no? Percussore lanciato, no? E precaricato parzialmente, provo. Poi sentendolo al tatto è molto bello come scatto. Bella. Io c'ho quella lì, c'ho il sacco di anni. Va bene, dai, rinnovo i saluti a tutti e passo in quelli che si ascoltano ad accenare. Buona serata a tutti, saluto anche Massimiliano, intanto l'ascolto, un abbraccio a tutti, ciao ciao. Ciao Clara, alla prossima. Non ha solo lo scatto alleggerito, c'ha lo sgancio caricatore, l'albopen, c'ha un po' di roba, là, diciamo così. Ehi, oh Natalì, sta per iniziare il mio film, dai, anch'io vi saluto. Ciao Gianni, Natalino, Claudio, tutti gli ascoltoni, dai. Ci sentiamo domani, ok? Ehi, ciao, ci sentiamo Marco, buona serata anche a te. Natalì, vi saluto anch'io, dai, che devo uscire, ci sentiamo. Statemi tutti bene e facciati con i vesti. KK, là, salutoni a tutti, cuoretti per me, là, anch'io me ne sto andando, tanto ho messo tutto a posto qua, ci vuole un macello. KK, ci sente, è volte di bisogno, ho fatto morti che sta parlando, questo non ho capito, poi si sente che roba sotto fuori. Il televisore è già acceso, là, ci sentiamo alle prossime. Ci sentiamo, ciao. Yeah.